Liberami, padre, di ogni bontà. Dalla medianità degli zingari. Liberami, padre, di ogni bontà. Dal vizio della droga. Dal vizio del bere i liquori forti. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalle ossessioni omosessuali. Dalle ossessioni gay. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Signor Presidente, mancano mascherine. Mancano milioni di mascherine nelle case di riposo, nelle corsie d'ospedali, nelle case. 700 letti di terapia intensiva in più sono stati realizzati in Lombardia grazie all'eroismo del personale sanitario. Sanitario, sanitario, sanitario. Non a qualcuno che arriva da altri paesi. Alla fine del tutto dovremo chiedere conto a chi ha fatto cominciare tutto e ha perso settimane colpevolmente nel denunciare l'epidemia. Se il governo cinese sapeva, non ha denunciato e non ha protetto, ha commesso un crimine ai danni dell'umanità. E adesso non si può far passare per salvatore colui che ha contagiato il mondo. Giuseppe Conte, ma prima o poi ci sarà il re dell'azione. E che cos'è? La resa dei conti, dovrai risponderne al popolo italiano, tu Rocco Casalino e la pletora di signorini che hai al tuo fianco a Roma. Sono in gioco i destini dell'Italia e questi non se ne rendono ancora conto. Si vergogni! Vada via! La prego! Il mio è un invito perentorio. Vada via! Secondo Gottardo c'è la possibilità 1 su 10.000 che lui possa morire visto che è quarantenne, probabilmente c'è ragione, ma sicuramente se sta male va a finire in rianimazione, occupa un posto a uno che ne ha più diritto, che dice meno cazzate di quel figlio di puttana che è Gottardo, sei una merda! Gottardo, sei una merda! Infame di merda, pezzo di merda, che cazzo hai con i sindacati? Pezzo di merda, infame che non sei altro, pezzo di merda, sempre così, sempre così. Tu Cruciani sei sempre nella parte dove escono i soldi, sempre nella parte dove che danno i soldi, sempre i padroni, pezzo di merda che non sei altro, che cazzo hai contro i sindacati? Qua si fa sciopero se non si rispetta i diritti dei lavoratori, e qua i diritti dei lavoratori non sono rispettati, non sono rispettati, cazzo. Come mai sempre in culo e operai? Prima o poi vi spaccheremo il culo, tu sei una pezzo di merda che non sei altro. I veri italiani non sono froci, questo è pacifico. Poi ci stanno alcuni che dirazzano, e pazienza. Va bene? Ah beh, ma Parenzo lo facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, eh. Ma vaffanculo, te chi cazzo sei? Ma mi rompo un cazzo, va, vaffanculo, va! Ti rompo un cazzo! Cosa? Sempre diretta dal bunker di Via Monterosa, qui in collegamento da Roma, David Parenzo. Eccoci, eccoci. Buonasera amici, ansiogena, una trasmissione ansiogena, ma ha messo già una giornata terribile, ha messo un'ansia, gente che urla, parolacce, insulti, ma la cosa è incredibile. Beh amico mio, il timbro resta questo, anche in queste giornate drammatiche. Che cosa? No, Prodi, che c'entra? Riflessione. Scusi Prodi, ma l'Unione Europea non esiste in questo periodo, non esiste. L'Europa c'è, è lì, a Bruxelles. tranquilla. Ma appunto, tranquilla. I 27 paesi ragionano. Ma che ragionano? Per combattere questo virus invisibile. Pensate, è invisibile. E come capito, si combatte? Sì. Appunto. In silenzio. No, ma che silenzio? Senza urlare. Tutta questa ai zanzara party, no. Confusione, sovranisti che urlano. Ma che c'entra con calma, In silenzio a Bruxelles. Shh, piano piano. Ho capito. Senza urlare. Ho capito tanto. Senza urlare. Shh, in silenzio. E riparte la musica. Oggi collegamento sospeso con Padova. Collegamento sospeso con Padova. Lasciamo un po' di mistero su questo collegamento sospeso col signor Gottardo. Però uno dei temi del giorno, i dati che avete appena ascoltato, i dati che molti di voi sanno perché siete tappati in casa. Brutta giornata. No, brutta, ma attenzione, giornata. Bisogna anche prenderli. Torna a crescere i positivi. Bisogna prenderli con calma, perché pare che spiegaglielo per esempio la Fontana alla Lombardia. Sì, d'accordo, calma. Però il dato della Lombardia, per esempio, sembra influenzato dal fatto che sono stati fatti più tamponi. Però calma, anche sì, qui sì, grande sì. Calma, per come carità, direbbe Prodi, certo. Grande calma. Uno dei temi della giornata è l'assurdità di un ministro degli interni, la signora Lamorgese, il prefetto, mi sembra che sia prefetto, no? La signora Lamorgese, ex prefetto quello di Milano, che ha denunziato per vilipendio alle istituzioni. Ancora esiste questo reato di vilipendio, certo, alle istituzioni, che peraltro prevede, credo, solo delle ammende, se non mi sbaglio. Vilipendio alle istituzioni il sindaco di Messina Cateno De Luca, sì, il quale è colpevole di cosa? È colpevole il sindaco di Messina? Di aver detto delle balle. Ma no, perché bravissimo c'entra? Quello sarebbe diffamazione quella là. Dunque, ha insultato la carica del ministro dell'interno. Ma non ha insultato la carica, una vergogna in un momento come questo che le istituzioni. Ma è una vergogna fare causa al sindaco di Messina, portare in tribunale il sindaco di Messina che si è messo lì davanti a non far entrare in Sicilia quelli che non avevano diritto di far entrare, e che nessuno era in grado di fermare. Parole offensive, parole incredibili, ha usato proprio il ministro risentiamole. Ministero degli Interni, con tutto il rispetto, vai a fanculo. Nessun aumento di flusso in Sicilia, e ieri tutti quelli che hanno traghettato erano in regola. Lo dice il ministero, il Viminale, siete imbroglioni, impostori. Imbroglioni, impostori, e soprattutto con tutto il rispetto per le autorità civili, politiche e militari, come direbbe qualcuno, vaffanculo. Ora io dico, con tutto questo casino tu vai a... questo casino tu insulti il Viminale e metti in giro queste voci vergognose di non aver tutelato l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Senti la sua reazione, senti. Ho appreso in questo momento di essere stato denunciato. Coronavirus, Lamorgese denuncia sindaco Messina. Parole gravemente offensive, vilipendio alla Repubblica. È punito con la multa da euro 1000 a euro 5000. Quindi ti chiedo di fare una colletta. Ma è straordinario, De Luca chiede di fare la colletta. La pagasse di tasca sua e quei soldi destinati a qualche istituto di ricerca. Lamorgese ha dichiarato il falso. Ma che si vergogna? Quello giustamente, quelli fanno le quindi sa già che perderà. Sa ma già che verrà condannato, sai. Giustamente. Ma poi, anche di fronte all'alta vergogna di Stato che si è riscontrata, riguardo al comunicato stampa che lei ha fatto il 23 marzo sera, nel quale ha dichiarato il falso, e mi assumo la responsabilità anche di questo. Accusa il ministro degli interni di avere dichiarato il falso, amico mio. È fuori controllo quel sindaco. Quel sindaco è fuori controllo. È fuori controllo quel sindaco. Comunque, ragazzi, la cosa più incredibile del mondo è la cosa più più folle che in un'epoca digitale, in un'epoca in cui tutto, come in Corea, dovrebbe funzionare con questo cazzo di telefonino che ho qui, con questo cazzo di telefonino, tutti dovremmo essere, lo siamo già, ancora di più dovremmo essere. Io non ci credo a questa storia della dittatura, a questa rottura dei coglioni della privacy, già non ci credevo prima, tanto comunque ci siamo consegnati già da soli all'assenza della privacy già da tempo. Ma di cosa parliamo? L'autocertificazione scritta, il papiello scritto. Ma questi che hanno preso la multa si dovrebbero ribellare, questi sì, ovviamente non quelli che sono in regola, non quelli che sono in regola, quelli che magari, non quelli che non sono in regola, quelli che sono in regola, che vanno a lavorare tranquillamente e magari non hanno il papiello dietro. Io non lo porto mai questo cazzo di autocertificazione, non porto mai dietro un cazzo, chiaro? Vabbè, che tu sei famoso e quindi ti riconoscono, quindi gli dici vado a seminare zizzania dalle 18:30 alle 21, quindi la gente lo sa, anche il poliziotto che ti ferma ti vedi, dice mamma mia, sì, lei quello forse dall'odore ti riconosce, dall'odore di dice quello è Cruciani, ah benissimo, lei è quello che va a seminare zizzania in un momento di panico come questo, sì prego vada, così ti dicono, quindi ovvio non hai bisogno del, perché ti riconoscono, sei famoso, ma gli altri. Gabriele, il capo della polizia, ci costringono di nuovo ad un'altra, a ristampare un'altra. C'è gente che sta stampando qualsiasi cosa, autocertificazioni, ma basta con sta storia. Sì, sì, sì. Io ho comprato una stampante. Uno a casa, viene fermato, infatti, poi controllano sul serio se vai al lavoro oppure no. Post, e poi controllano e casomai ti arriva la multa a casa. Ma che cazzo è l'autocertificazione? Ma che roba medievale è? Stiamo per evitare l'ennesima autocertificazione. Noi non lo facciamo per, come dire, perché non sappiamo che cosa fare o non fare, lo facciamo perché ovviamente cambiano le disposizioni e dobbiamo aggiornarle. Poi è vero che i carabinieri, la polizia, quando ti fermano ce l'hanno, eccetera eccetera, per carità, te l'auto compilano, ma possibile mai che dobbiamo andare avanti a cartuccelle? Possibile mai che dobbiamo andare avanti a carte? A carte. Quello che mi spaventa non è tanto il fatto che uno se la debba stampare, dopo il controllo con la carta, dopo c'è uno che va a vedere la carta, poveracci, costretti ad andare a vedere i pezzi di carta che uno o compila davanti alle forze dell'ordine oppure compila prima. Ma che roba è? Dai! La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Scusate, ma la gente fa il cazzo che vuole, ma voi state a fare la radio, chi è che vi rompe i coglioni? Ciao, grandi. Se servono 100 miliardi per mandare liquidità alle italiane, servono 200 miliardi per cancellare tutti i tassi, servono 100 miliardi di euro, un signor Conte piglia e stampa 100 miliardi di euro e ci runo popolo, perché altrimenti io penso, come tanti italiani pensano, che voi state aspettando che il primo scende in piazza, poi saremo in tantissimi a scendere in piazza e praticamente ne volete sparare in capo, volete arrivare a chi su, noi non abbiamo paura, noi per sfamare i nostri figli non ne scantiamo rene è donudo, signor Conte, lei forse non si rende conto del danno che sta provocando, lei mi ha cagato un cazzo con ogni volta che faccio tutte le minchia, viene in conferenza stampa, fa tutto belloccio, io a lei, a chi de come lei che fanno tutti i belloccio e poi in conclusione a toccare con mano concretamente non fanno un cazzo, mi sbatto un ta minchia, l'ha capito signor Conte, lei ci ha succato un raregone del pennolone, ha capito signor Conte, lei non va a dare i piccioli signor Conte, lei va a campare un popolo italiano, se no si levi dai coglioni. Lei deve parlare chiaro, ha rotto la minchia. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Il signor Porro, signor Porro scatenato, senti signor Porro, signor Porro. Ricordatevelo che così come vi hanno tolto le libertà e vi hanno messo agli arresti domiciliari per l'emergenza, con altrettanta facilità potranno agire sui vostri diritti patrimoniali. Sicuro! Perché in realtà i soldi non ci sono. L'Europa non esiste, è morta. È inutile che ci prendiamo per i fondelli. Possiamo far finta che questa finzione dell'Europa ci sia, che è una finzione per far sì che la Germania continui a dire di essere l'Europa e non solo la Germania, ma è morta. PIN, il contropin, cioè c'hai il mio conto corrente, mi dai 600 euro, avrai sbagliato perché avrai dato 600 euro a 10.000 persone che non se le meritavano, chi se ne frega! Ma come? Fantastico, nel frattempo vi segnalo la seguente cosa, a Scampia utilizzano i droni, va bene? Per il controllo dei cittadini, utilizzano i droni a Scampia, a voi non vi viene il sangue al cervello che a Scampia utilizzano i droni? Cioè, cosa facciamo noi? Noi non ci occupiamo dei tamponi e delle mascherine, ma ci occupiamo dei droni! Ma voi siete matti! Siete matti! Il problema non è un runner a Scampia, il problema è che l'ospedale non ha i ventilatori. O no? Ci possiamo arrivare a questo o non ci possiamo arrivare? Questa è un'autocertificazione che dimostra che questo paese è morto, che le nostre imprese non ce la potranno fare a lavorare con questi qui. Feltri sostiene che a Conte stanno... Mi dispiace molto, sai, perché Porro era una persona molto ragionevole una volta, su posizioni anche liberali, ora mi dispiace molto perché io gli voglio... Ma giustamente, gli voglio tuttora molto bene. Perché ancora non è chiaro come la gente riceverà i così. Soldi. Ma cosa Trump ha dato i soldi subito, ha messo subito i cose diverse. Ma quali soldi subito? Adesso anche il governo lo sta facendo, certo, questo ci mancherebbe altro. Cioè, ma chi vuol dire dare i soldi a tutti così a caso? Anche a Porro che non ne ha bisogno gli devi dare 600 euro. Ma che ragionamenti fa? Una volta era un liberale Porro, una volta. Senti Feltri. Tampone l'ho fatto, adesso ne farò un altro per fare una verifica, perché è chiaro che alla mia età ci si preoccupa un pochino, visto e considerato che i vecchi stanno sui coglioni anche a Conte, il quale dice che fino a luglio noi anzianotti, anzi vecchiotti, non potremo più uscire di casa, praticamente ci condanna in base a una norma costituzionale che non c'è, forse la vorrà introdurre lui. Feltri è incazzato perché qualcuno pensa di tenere in casa i vecchi a lungo, che ma sarebbe lui anche che necessario. Non vuole stare in casa. Lui non vuole stare in casa. Semplice. Lui non vuole stare lui in casa. Non vuole stare in casa. Non vuole stare in perché casa. Perché non vuole stare tutto il giorno con la moglie, per carità, è più che mai legittimo. E quindi si è inventato nel corso degli anni la direzione di alcuni giornali. Questo ha fatto. Benissimo. Ma però io siccome comunque gli non voglio bene. Si è inventato, di dirigere dei giornali con nomi particolari, Il Borghese una volta, Libero. E si è inventato questa cosa qua straordinaria. Benissimo. Dove fa dei titoli roboanti, dove le notizie sono sempre in secondo piano, ma questo non è un problema. Oggi lui si trova nella condizione difficile di dover stare in casa, ma lo facciamo per la sua salute, questa è la questione, per comunque la sua Salvini, salute. Salvini attacca, non molla sulla questione della Cina, sai, dopo la diffusione di quel video ieri che è stato smentito, quella specie di servizio, quel servizio del TG Leonardo. Era un servizio del TG Leonardo che del però 2015. Era del 2015, su un virus che non c'entrava niente. Che nulla a che vedere su però un virus senti, Salvini, che non se nulla, la Cina sapeva è un crimine contro l'umanità, se la Cina no, ma è sapeva. Criminale... Un politico, sei d'accordo come un politico che diffonde artatamente un video palesemente che non c'entra nulla con quello che stiamo vivendo oggi è criminale. È un atto criminale. I suoi social hanno diffuso. È un atto criminale. Hanno detto facciamo chiarezza su questa cosa. Concorda con me su questo. Che vuoi portare facciamo in tribunale Salvini? Su che cosa? Vuoi portare in tribunale Salvini? Ha una responsabilità pubblica lui. È ha un detto politico. Facciamo chiarezza su quella roba. In realtà non c'era da fare chiarezza perché era un servizio della RAI del 2015. E non c'è nessuna chiarezza da fare, è come se tu prendessi un servizio di è tutto vabbè, chi se ne frega, è un atto criminale. Salvini, vai Salvini. Alla fine del tutto dovremo chiedere conto a chi ha fatto cominciare tutto e ha perso settimane colpevolmente nel denunciare l'epidemia. Se il governo cinese sapeva, non ha denunciato e non ha protetto, ha commesso un crimine ai danni dell'umanità. E adesso non si può far passare per salvatore colui che ha contagiato il mondo. Intanto Alberto Fusaro dice: guai a dubitare che il virus sia nato spontaneamente. Crescono i dubbi. Crescono i dubbi. Le centrali che diffondono a reti unificate la catechesi del verbo unico politicamente corretto seguitano da tempo a ripetere che il coronavirus non può essere nato in laboratorio. È nato, si decide per decreto, per naturale evoluzione da un pipistrello. E guai a dubitarne. Ali da Milano, avanti tutta ragazzi, Ali da Milano, 800240024 ragazzi, Ali da Milano, siamo qui, ancora vivi e vegeti, vai. Cruciani! Perché non ti chiudono, dice un altro, ma vai a fare in culo, qui siamo a combattere, vai Ali, sei benvenuto anche tu, vai Ali, dimmi. Buonasera, soprattutto a Parenzo. Dimmi Ali, dimmi. Buonasera, volevo caro dirti, Ali, grazie per aver chiamato. Volevo dire che tu e compagni, altri, Feltri, sì. Tutte le persone che dicevano all'organizzazione non governative come il tax del mare, aiutavano soltanto i migranti, era un business per loro. Sì. Adesso che sono in Lombardia, che insieme altri medici stanno aiutando, come mai adesso non dai queste notizie? Ma che non dai, l'abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma ci sono alcune associazioni non governative, alcune ONG che sono impegnate in questa crisi, benissimo, ma chi ha mai criticato? Chi l'ha mai detto? Io ho mandato in onda le cose che ha detto Vespa, ho mandato in onda cose che ha detto qualcun altro, non ricordo chi, ho detto certo non c'è questo dispiegamento di forze, però alcuni medici sono presenti, uno è addirittura morto, uno che lavorava per un'ONG, cioè alcuni medici sicuramente, alcune organizzazioni sono attive, ma che cazzo vuoi da me? Non ho capito, cioè qual è il problema? Non ho capito. Volevo che tu continuassi come facevi prima, quando ma loro che c'entra? Ma sono cose diverse. Sono anche pronte perché quando c'è il bisogno siamo tutti uguali. Chi si sta impegnando? Va benissimo, ma non capisco che cosa vuoi da me. Io parlavo delle ONG e del loro ruolo nei migranti, roba di cui non si parla adesso. Per anni tu e gli altri l'avete insultati. Ma chi ha insultato? Chi salva le vite umane non l'ho mai insultato. Io parlavo in generale del ruolo delle ONG nel far arrivare i migranti qui in Italia. Sì. E le cose che ho detto prima le mantengo. Che c'entra? Che c'entra questo col fatto che alcune tutti i compagni tuoi dicevate per anni che queste organizzazioni non governative lo facevano per una questione di affari, di business, eccetera, eccetera. Adesso hanno dimostrato. Ci hanno guadagnato in questa storia dell'immigrazione. E allora qual è il problema? Non ho capito. Ma il problema è che in questo momento, quando loro stanno facendo l'intervento. Ma chi critica questo? Chi ha criticato il fatto che adesso alcune ONG stanno sul territorio in Lombardia? Chi dice il contrario? Va benissimo. Non l'avete detto, ma chi se ne frega di dirlo? Perché uno lo deve dire? Stanno lì. Non l'avete raccontato. Ma sono loro stessi che non fanno notizia per voi. Salvatore provincia di Latina. Abbiamo capito benissimo. Salvatore provincia di Latina. Ore di trasmissione. Ma sono loro stessi che non lo dicono. Salvatore provincia di Latina. Dimmi. Pronto? Dimmi Salvatore, dimmi. Ma a parte che non è vero, perché io credo più a Vespa, che è uno che dice di questo. Io ho visto soltanto un'ONG americana che ha fatto Emergency. Di questa bellissima signora che si è permessa di denunciare al sindaco di Messina, a De Luca, il ministro dell'interno. Sì, allora? Sì, ministro dell'interno, ma De Luca è stato denunciato pure De Luca. No, De Luca è un altro. Parenzo. Sì, ma può darsi. Non ho capito. Sì, io lo so, l'ho sentito. Ma da chi è stato denunciato? De Luca l'ha pure risposta. Vuole andare in tribunale solo perché aveva scoperchiato la vergogna di Stato che sta combinando questo governo? Andiamo all'attacco. Qual è la vergogna? Ci vediamo in tribunale. Qual è la vergogna? Che ne dice Parenzo? Andiamo a quale attacco? Qual è la vergogna? A quale attacco andiamo? Ma quale? Di chi stai parlando? Ma di cosa parla? Un'ora fa. Fermo lì. Extracomunitari in giro. Che c'entra gli extracomunitari? Che c'entra gli extracomunitari in giro? Di essere praticamente dei permessi. Fermo là. La zanzara. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Ascolta. Io è l'abbiato di Donald Trump. Di Iran. Guarda. Donald Trump, guarda. All'abbiato, guarda di mio collo. Guarda, Donald Trump. Mamma mia. I will be. Mamma. Donald Trump. Mamma mia. I will be. Mamma mia. Donald Trump. Oh. Sbagliati Donald Trump. Oh. Che è successo? Sempre casino, sempre casino. Iran, anche America, sempre casino. Donald Trump. Oh. Boom, boom, boom, boom, boom. Non va bene così. Luciani, devi dire a quel cretino di Michele Caruso che quelli del nord, che li hanno sempre chiamati terroni, li hanno anche sempre mantenuti, gli hanno sempre dato da mangiare e da bere ai terroni, quelli del nord. Il signor Michele Caruso si deve augurare che quelli del nord restino vivi, perché altrimenti i parassiti del sud moriranno tutti, non di coronavirus ma di fame, perché hanno l'allergia al lavoro. Diglielo a Michele Caruso, quel pezzo di merda che non avrà mai lavorato un giorno in vita sua. Diglielo, Cruciani. Io voglio Vincenzo De Luca presidente del Consiglio e presidente della Repubblica, lo voglio dappertutto, cazzo, lo voglio dappertutto, con i lanciafiamme dappertutto. A mio discapito, capito? Comunque, Davide, non riesco a capire una cosa. Per esempio, sì, il sindaco di Cagliari, no? Il sindaco di Cagliari ha fatto un paio di giorni fa dei manifesti in tutta la città, dei manifesti molto forti, si direbbe shock. Manifesti sì, shock. Sì, in stile toscani, in stile toscani, sì, in stile Oliviero Toscani, quelli del passato. Quando di quelle uno di questi manifesti è questo, in tutta Cagliari, quando mio figlio, per invitare la gente a stare dentro casa, quando mio figlio è stato contagiato ho capito che dovevo rinunciare a quella spesa inutile. Me ne usciamo, prima ne usciamo. È stato attaccato perché dice che era un manifesto troppo shock. Ma è straordinario, cioè, voglio fare un grande applauso al sindaco di Cagliari. Straordinario non lo so, però straordinario, sì. Un grande applauso al sindaco di Cagliari, assolutamente, la corte mandami gli applausi. La foto di chi era, del figlio, di chi era la foto? Non c'era nessuna foto, solo la scritta. Quando mio figlio è stato contagiato, ho capito che dovevo rinunciare a quella spesa inutile. Cioè, non è che ha messo i polmoni, non è che ha messo, secondo me bisognerebbe mettere, per invitare la gente a stare dentro casa, anche se ormai, diciamo, il 94-95% delle persone è abbastanza ligio, sì, no? Abbastanza. Il punto è, bisognerebbe mettere dei manifesti con i polmoni, sai come si fa con le sigarette? Con i polmoni rovinati dal coronavirus. Cioè, no, ma hai detto bene, manifesti. Perché se si fa con le sigarette, nessuno scandalo, l'hai detto molto bene, lo si fa con le sigarette. Esatto. Perché, anzi, grazie a una normativa europea. Mettiamo le foto. Perché lo si fa grazie a una normativa europea. Ma chi se ne frega, europea, dai, di queste cazzate. Quindi dai, devi forza. Dire grazie Europa. Ma chi se ne frega? Quella normativa lì è europea. Vabbè, ma certo. Chi se ne frega, Davide, dai, ma chi se ne frega? No, no, mettiamo dei manifesti enormi con i polmoni rovinati, massacrati, sì, dal coronavirus. Giusto. Perché sai che esistono online, valli a vedere i polmoni massacrati. Sì, sì, no, l'ho visto una volta, mi fa impressione. Intanto ad Adelfia, credo che sia in Puglia, coppia di amanti pizzicata pizzicata in macchina, perché si vedeva da 4-5 giorni, stesso condominio, si vedevano in macchina per trombare, pizzicati. Pazzesco. E invitati a tornare alle rispettive abitazioni. Però devo dire la verità, multati anche, ma sì, saranno stati multati, però la galera è stata quella, tanto voi tornate alle rispettive abitazioni. Intanto da Palermo mi sembra che ci abbia chiamato il mitico grillino palermitano. Ma vai, per carità, vai grillino. Mi ricordo sempre Nino da Palermo. Nino, sempre Nino, sì, assolutamente. Ormai quello è un capitolo archiviato, sì. Si venduti, anzi oggi sono meravigliato. Babbo per sei, pare che babbo sei, il Mexico. Sei un babbo, sei meravigliato. Babbo sei, senti, coppole minchia, l'unico sei, europeista nel sei mondo, sei rimasto babbo, tu. Sei, hai capito, stronzo? Sei uno stronzo, non ti rendi conto che l'Europa babbo è stata la fregatura babbo per l'Italia e continua a essere la merda, la fogna dove ci troviamo. Smettila, tu sei di... un babbo sei, Giuseppe, babbo per cortesia, Giuseppe, lo fai finire il suo scemo, Giuseppe. Dimmi Nino, dimmi. Allora, Giuseppe, io ti volevo dire una cosa. A tutti che vuol aspetta, dire stai zitto un attimo. Giuseppe, tu hai pienamente ragione sul fatto che il coronavirus è pericoloso e c'è un scanto che amoremo tutti, su questo non c'è dubbio. Beh, qui soprattutto però, in Lombardia, amico mio, in Sicilia magari un po' in meno. In Lombardia no, ma in Sicilia se la cosa si prende, diciamo, sotto gamba... E può succedere pinnolone pure sei, pinnolone, pinnolone sei, pinnolone sei, fammi sentire Nino, fammi sentire Nino, preferisco che sei, tu sei sei minchia, meglio gottai dole tia, me va bene in pensione, la sta gottai, vai, dimmi Nino, dimmi. Allora Giuseppe, stavo dicendo, la malattia sicuramente è grave, ma tu me lo spieghi, la gente, io conosco persone, conoscenti miei, già a Palermo oggi, alla Lidl, in Viale Regione, chi stanno segnando i carrelli, sì, so, non volevano pagare, ed è sì, arrivata la polizia, ed erano soltanto in 20, volevo dire al signor Giuseppe Conte, io magari certe volte non volevano pagare, non volevano pagare, sbaglio pure a parlare, magari parlo pure troppo, però me pento, perché chi do capienzi, esatto. Io volevo dire a Conte, signor Conte, lei lo capisce che per ora sono 20 persone, magari fra 3-4 giorni sono 300 persone, poi quante forze dell'ordine devono intervenire? Dico, noi siamo di pinnolone, più, noi sì, siamo la maggioranza, pinnolone, e ci dovete ascoltare, perché se no ci facciamo sentire. No, ma c'è gente già, c'è poi già la responsabilità, se la gente muore di fame, se ne va in piazza e si piglia coronavirus, cucciolate il signor Giuseppe Conte, l'avvocato del popolo. Ma adesso farà arrivare dei quattrini, se lui amico fosse mio, veramente Giuseppe, scusami, se lui fosse veramente l'avvocato del popolo, noi, lui deve parlare chiaro, deve dire, signori italiani, io non vi posso aiutare, perché purtroppo siamo nelle mani del sozzino da BCE e comandano io sono soltanto un maggiordomo. Lui lo deve dire, cazzo, e poi noi ci ribelliamo, lui deve dire assaltate le banche centrali, no, e noi rivalutiamo la persona e ne andiamo a assaltare i banchi centrali, perché di chi esso si tratta, Giuseppe? Sta usurocrazia deve finire, hanno a comandare il Stato, no, che i banchi centrali ci hanno a dire i Stati, Parenzo, che devono fare. Come rispondi a Nino? Siamo rimasti senza ospedale, Parenzo stava a mettere la minchia a mucca ora queste cose, perché gli sto dicendo soltanto la verità. Pinnolone sono vent'anni che fanno tagli alla sanità, vent'anni che fanno tagli alla sanità, i respiratori dove sono? Il signor De Luca ora fa un sceriffo, ma diglielo ai politici siciliani, diglielo ai politici siciliani che hai votato tu, minchione. Non li ha votati lui non li ha votati. Giuseppe, te la posso dire una cosa? Allora, dimmi, il signor De Luca, e chi votava lui prima dei 5 Stelle? Chi votava lui? A me a De Luca mi stanca pa' minchia, perché stanno facendo tutti gli sceriffi ora, perché non reclamavano i soldi che ci volevano per far andare la sanità come era di giusto farla andare quando c'era da reclamarli, prima che scoppiassi sto puteferio. Ma ora chi votavi tu prima dei 5 Stelle? Scanta, Pinnulone, chi votavi tu in Sicilia? Chi votavi sei Pinnulone prima dei 5 Stelle? Ma 5 Stelle si sono venduti in anima al diavolo, la colpa è mia. Ma prima chi votavi tu? Me lo l'Italia. Dici chi votavi? Ora tu sei con i 5 Stelle, ora tu sei con Conte. Ma meno, questo è vero, questo tu è vero, questo è vero. Ma qui 5 Stelle tu, io al primo momento, da appena me lo dici per chi votavi prima, Pinnolone? Prima no, dei 5 Stelle, chi tu votavi? O Pinnolone, chi cosa votavi? Te, senti, chi tu votavi? Dire tutto quello che vuoi. Oramai sta finendo la mia che avete avuto, tu e l'amico tuo usuraio, capisci, Parenzo? Un popolo sta con un cazzo e un popolo va anche un tuo culo, o capire, Parenzo? C'è rabbia, c'è molta rabbia, c'è molta rabbia che sta colando, c'è molta idiozia, sta colando molta rabbia nelle case degli italiani, molta rabbia sta colando. Questi governatori che fanno gli sceriffi tariffi, perché non reclamavano i soldi che c'erano per mantenere la sanità in modo dignitoso prima. Sti quattro magnacci, De Luca, Musumeci, tutte coinute su Puro Conte, Di Maio, non lo so, Cornuti, non lo so. Pure i 5 Stelle sono mio, capisci, Parenzo? Possiamo dire che dici, aspetta Nino, che dici, Parenzo è pazzo secondo te? Non ho capito. No, dico che è formalmente pazzo, formalmente tecnicamente, certificato. Questi pazzi sono quelli che assai la mia, che io magari in 8 mesi, mese e mezzo posso campare, ma ci sono quelli che già domani i soldi per fare la spesa non hanno questo più. Questo è vero, Parenzuccio! Cosa fai, Parenzuccio? Pinnulone sei. Mangiati il pane, mangiati il panino con la meuzza e non rompere i coglioni. Mangiati un panino con la meuzza e non rompere i coglioni, capito? Matteo da Macerata, vai. La gente incazzata. Ma non puoi dire la gente. Ma che gente? La rabbia sta montando nelle case degli italiani. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Capisci? Matteo, vai, dimmi. Sì. Ma non c'è rabbia, c'è follia di questo, basta. Su un argomento che ho sentito poco trattato in trasmissione. Dimmi. Qualcosa. Ovvero, le bollette. Io oggi sono stato al telefono con la mia azienda fornitrice. Non riesco a non pagarla, devo pagarla. Amico ok, mio, un mese si può fare. Dovrebbero sospendere tutto. Fino al 3 aprile siamo tutelati, però spero che facciano qualcosa. E che te devo dire? Aspetteremo. Alessandro, provincia di Arezzo. Vai, Alessandro, dimmi. Sì, io volevo intervenire in merito al TG Leonardo. Sì, se qualcuno sì. ha giocato a fare Dio utilizzando il virus, anzi il coronavirus della SARS, e hanno provato a farci degli studi e questi studi hanno provocato il disastro attuale, è giusto si faccia un'indagine. Ma non è così. Anche se devo dirti la verità, lo studio che è stato citato in queste ore, che smentisce l'origine, diciamo, dal laboratorio e attribuisce l'origine naturale, io credo all'origine naturale, dice che però non bisogna escludere altre possibilità, cioè non è che lo ha escluso del tutto la possibilità della creazione in laboratorio. Non l'ha escluso del tutto, diciamo che ritiene altamente probabile il fatto che l'unica virus... cosa certa, no scusa però perché se no si fa l'unica cosa, quello che ho capito io che leggendo quel servizio, è quel cosa servizio là è riferito a un'altra cosa, certamente non la coronavirus. Esattamente. La Zanzara. Ho bisogno di sorca io, capito? Francia Lenzo. Sgarbi prima della denuncia. Sgarbi dopo la denuncia. Miau, miau, miau. Un amico giornalista mi ha detto che un noto conduttore radiofonico di Padova è stato trovato positivo al coronavirus. È così. Questa è novità, questa è una grossa novità stasera. Allora, oh, ragazzi, non scherziamo su queste cose però. No, per carità. Non scherziamo su queste cose. Gli si può augurare tutto, ma non quello. Non scherziamo su queste cose, non si scherza. No, vi voglio far sentire Renzi perché è abbastanza incredibile. Renzi che oggi in Senato, in tutto questo casino di interventi, c'è stato anche un mezzo litigio, no? Perché uno dei 5 Stelle ha attaccato Salvini, bagarre. Insomma, adesso va bene tutto. A noi piace la bagarre qui in trasmissione, però al Senato non è in questo momento un bello spettacolo. Però chi se ne frega? Adesso ti scopri improvvisamente no, così. No, ma la bagarre su cazzate. La bagarre in Senato, no. Disse il conduttore della Zanzara che da 10 anni e 15 a questa parte mette in scena ogni sera il peggio del paese. Ma quella è la radio. Che c'è? Io mi diverto ma questo lo dico sempre anch'io. No, questa è la radio e quello è il Parlamento. Che cazzo vuol dire, dai? Il Parlamento è lo specchio del paese, purtroppo. Renzi, riapriamo le librerie perché curano l'anima. Adesso, amico mio Renzi. Ecco, questo mi sembra un po'. Io dico una cosa, no? Ma come cazzo si fa a dire riapriamo le librerie? Io spero che fosse solo una boutade, fosse solo una roba così. Che cazzo vuol dire riapriamo le librerie? Cioè, nulla, dai, nulla in questa fase, niente. Nulla. ci stiamo chiedendole qualche gesto simbolico, ad esempio, con tutti i crismi della sicurezza, riaprire le librerie. Ma no, perché no. Bisogna nutrire anche l'anima, così come si tengono aperte le edicole, riaprire le librerie. C'entra riaprire le librerie, al limite uno, e ci sono le robe anche online, no? Se uno deve leggere qualche cosa. Poi a casa uno di solito ha una marea di roba che non ha mai letto in vita sua, accatastata tanti lì. Libri, sì. Non manca questa roba qui. Che cazzo vuol dire riaprire le librerie? Cioè, io ho 1000 volumi, 1200 volumi. Ma io anche di più, probabilmente. 1200. Sto ancora pensando, a parte che il sindaco di New York ha detto che praticamente metà, forse più della metà della popolazione di New York sarà infettata. Sì, alla fine, è pazzesco. Cioè, vabbè, questo non vuol dire niente, non vuol dire nulla, vabbè. Non è che moriranno. Vabbè, cioè, col sistema sanitario americano che c'è in America. Adesso? Ringraziamo il welfare state italiano. Guarda, l'organizzazione sanitaria italiana la dobbiamo ringraziare in questi giorni. Dobbiamo ringraziare la sanità italiana tutta la vita. L'organizzazione. Negli Stati Uniti, 35.000 euro per Franco curarsi dal coronavirus. $35.000 costa curarsi negli Stati Uniti dal coronavirus. $35.000 costa. Mi sentire, saluto, vale per tutti e tre, dimmi, non c'è il Gottardo stasera, non c'è il signor Gottardo. Purtroppo non c'è, non è mancato, è lì, è vivo e vegeto, è tornato in cuccia, è a casa, è a casa con le figlie, dai. La cuccia vuol dire la casa. Dai, la cuccia, su, Franco, dimmi. A cuccia, il saluto vale per tutti e tre i conduttori. Va bene, Franco, dimmi allora. Mi sono rotto i coglioni con questo patriottismo, la bandiera. Io ci piscio sopra la bandiera. Perché devi pisciare sopra la bandiera? Tutti i politici dovrebbero rinunciare per tre anni allo stipendio. Tre anni allora, mi sembra un po' troppo. Allora mi sì che daranno un esempio alla nazione. Perché tre anni? A cercare a me, che sto a casa, è già un mese. E allora mi sono rotto. Ho capito, Franco. Prendiamo il numero di questo e segnaliamo. Ma dove devono andare? Ma dove devono stare in casa? Ti ho detto che la gente sta sbroccando. Qui per noi è la norma, per qui è la norma per questa trasmissione. Non mi interessa. Scusami. Questo è il mio commento che faccio. Questo ma qual è il commento? Non c'è commento, è l'editoriale. Contro tutti quanti, pure contro Salvini, ma tutti quanti. Dovrebbero rinunciare. A parenti lei, amici, affetti lei. Non prendiamo lo stipendio. Ma lei ha amici e affetti, ce le ha persone care, una moglie, un figlio, non so, un amico. Sono moglie e figli. Ma dove stanno? A casa? Dove stanno? Non possono rinunciare. Ma sono scappati via. È rimasto solo. Come volontariato questo lavoro? Ma chi? Lo fanno come volontariato. Ma quale lavoro? Vogliono andare a fare la politica. E se no se ne vanno. Ah, tu dici politici, naturalmente. I politici. Scusami, Franco, ma dove stai? In casa? Tu sei in casa con con tua moglie e con i figli, rintanato? Sì, con mia moglie, no, c'è un figlio che lavora a Roma e l'altro che sta a casa qua. Poveretta la moglie. Povera moglie che sta a casa con sto qua. Abita a casa tua, è commercialista? No, sta a casa con la compagna. Ma pure tua moglie si è rotta il cazzo di stare dentro casa? No, stiamo soltanto io e mia moglie a casa. Ma ti sei rotto il cazzo pure tua madre? Tua moglie di stare dentro casa? Io e mia moglie, no. No, ma lei si è rotta i coglioni pure lei di stare dentro casa? Si è rotta di stare con un matto simile. Ma non si è rotta per forza. Per stare a casa, ma l'hai detto, scusa, non c'è. Dobbiamo stare a casa, dobbiamo stare a casa. Però questi qua che tutti i giorni per televisione e chi ci buttano addosso, tutti hanno la ricetta. C'hanno tutti quanti la ricetta. Tutti la formula hanno, tutti quanti. E questo che non mi spiega. Sono 10-15 anni che ci hanno messo in mezzo a una strada. Adesso ci hanno tutti quanti la ricetta. Ma tu stai in pensione, non ho capito? Io sto in pensione, sì, sono già 38 anni che sto in pensione. Quanto prendi di pensione? Quanto prendi? Io lavoravo al comune di Isernia, prendo 1200 euro al mese. Sei un privilegiato. Per non fare un cazzo, per non aver fatto un cazzo. Stava lì al comune e non faceva un cazzo tutta la vita, prende 1200 euro. A che età sei andato in pensione, giovanotto? A che età sei andato in pensione? Adesso scopriamo che sei stato pure un baby pensionato, magari. 65. Pure, sì, a fare cosa? A passare le carte al comune? Che fatica, devo passare le carte! Che fatica che hai fatto, facevo come l'idraulico. Però scusami, scusami, il fatto che pisci sulla bandiera, perché hai detto che vuoi pisciare sulla bandiera? Perché hai detto che vuoi pisciare sulla bandiera? È gravissimo. Perché voglio pisciare sulla bandiera, perché i politici dovrebbero rinunciare per 3 anni allo stipendio, allora sì che io la bandiera la bacio. Noi per 3 anni rinunciamo allo stipendio. Ciao Franco, ciao. Ma perché lo saluti? Ciao. E che devo fare? Non lo devo salutare? Tutto uguale, tutte le opinioni uguali. Grazie per quello che hai detto, ma come grazie? Criminale. Ciao, grazie. E si passa un'altra telefonata. Appunto. Ma non puoi dire ciao. È la rabbia, grazie, la rabbia ciao. Dell'Italia rinchiusa ma dentro casa. La rabbia del solito delle persone che chiamano qua da 10 anni. Guido. Sono gli stessi matti moltiplicati all'ennesima potenza coronavirus 2019. Questa roba Guido qua è il Covid-19. Pronto? Moltiplicato all'ennesima Pronto? Potenza. Dimmi Guido, dimmi. Mi sentite? Pronto? Sì. Comunque è una cosa incredibile. Aspetta un attimo Guido, la cosa incredibile sono i racconti naturalmente che vengono dal bergamasco, dal bresciano eccetera. E, per esempio un parente di una vittima che ha perso, anzi uno che ha perso entrambi i genitori, dice: noi parenti dei ricoverati siamo stati il veicolo del virus e nessuno ci ha fermati. Questi facevano avanti e indietro con l'ospedale, nessuno li controllava, nessun protocollo, nessuna sicurezza e via, e così l'infezione galoppante. Comunque in Spagna 4.000 morti in un giorno. Ma questo che giorno? C'entra adesso, se dai i dati così no, non per dire un che cazzo, tutto dai. No, per dire poi che purtroppo notizia, in tutta Europa. Poi c'è la notizia che hanno dato, pare che l'Istituto Superiore di Sanità avesse avvisato il 2 marzo di una crisi chiara negli ospedali del bergamasco, invitando a fare una chiusura tipo quella di Codogno, e nessuno ha seguito questa direttiva. Sembra, chi c'è? Paco? Aspetta Guido, che c'è Paco? Aspetta. Signor Paco, che vuoi Paco? Ieri sei stato veramente incredibile l'altro ieri. Sei stato incredibile. Allora, intanto no, cioè, fammi parlare 5 minuti. Dimmi. Poi dopo puoi dire ciao, tutto quello Paco, che vuoi. Caro, ciao. Ciao Paco. Per la tua passione civile, perché così si chiama. Ma quale la tua passione civile? È una roba incredibile. Parenzo, questa incredibile. È una roba incredibile. Tu e Porro, fratello, tu grazie. Compagnia, no? Approfittate sempre, no, per fare la marchetta. A chi? A parlare male dei sindacati. Dei sindacati. Ma ti pare normale che questi qua si mettono in testa di allora, beh, per fortuna parlare, la cosa non c'è più stata. Allora non fammi dire parolacce, voglio solo spiegarti le robe che tu devi capire, che sei un gran pezzo di merda, testa di cazzo, come sei altro. Lasciami dire le cose che devo dire. Non male. Lasciami parlare per piacere. Dimmi. Allora, vabbè. Dimmi. Lo sopro in Italia è pagato. Sono incazzato, Cruciani. Lo ma so Paco, che con che pagato. Cosa sei incazzato? Stai lavorando allora, in questo periodo qua, o no, innanzitutto? Stai lavorando qua, o no in questo periodo? Lo sciopero in Italia è pagato, sì o no? Ma no che non è pagato, no. Ma che non c'entra? È allora noi si facciamo sciopero, siamo i primi a rimettersi, siamo i primi che perdiamo ma soldi. Questo non c'entra niente. Uno come me che perde una giornata di lavoro... Paco, ma tu sei pure sindacalista, non perdi un cazzo tu! Aspetta, tu non perdi un cazzo che sei sindacalista! Ma che cazzo stai dicendo? Se la gente va a fare sciopero perché si sentono i diritti minacciati, è giusto che fanno sciopero. Vabbè, ma perché io non ti ho detto, io ti dico una cosa, noi si hanno chiuso tutto. Ci hanno chiuso mensa, spogliatoio, tutto. La gente si cambia in macchina, la gente viene a lavorare. Beh, ho capito, ma che dobbiamo fare? Ti vorresti fermare allora, completamente e bloccare tutto merda, il paese? Pezzo di merda, ascolta qua, se io devo lavorare con la soda, sai cos'è la soda? La soda? Che è la soda? Sì, so che cos'è la soda, che c'è? Sai cos'è la soda? Se io devo lavorare con la soda, 8 ore di lavoro con la soda, io non ho il diritto di farmi la doccia, non ho il diritto di lasciare i vestiti sporcati, i vestiti contaminati al lavoro... Me le devono lavare, ma devo portare a casa. Ma chi ha mai detto che bisogna le devo portare a casa? Gente deve fare pausa. La gente deve fare pausa per andare a mangiare il panino in macchina perché tu hai chiuso la mensa. Con sto panino in macchina, quanti drammi! Ma quanti drammi con sto panino in macchina? Dai, su. Ma che ti vuoi infettare in mensa? Ma fare il bullo, come fai tu il bullo a metterti occhiali di sole? In studio, solo per fare il bullo. Cruciani, tu non sei figo, cazzo. Cruciani, noi guadagniamo dai 20.000, 25.000, 30.000 euro all'anno. Scusami, tu, Paco. Tu con le 2 ore e mezza di lavoro che fai alla radio, con le marchette che fai, 1 milioncino te la porta a casa, pezzo di merda. Ma quale un milioncino te la porta a casa. Ma c'è i soldi rabbia. Che ti dà col psicopatico. Senti la rabbia. I soldi che ti dà col psicopatico. Senti la rabbia. Che fai la marchetta al psicopatico, ti dai i soldi. 1 milioncino te la porta sempre quello a casa. Che, noi non abbiamo quello che l'amico Paco guadagna in un anno. Tu lo guadagni in un mese. Per, quello che Paco guadagna in un anno, tu lo guadagni in un mese. Quello che Paco guadagna in un anno. Ma cosa vuoi da me? Ma cosa vuoi? Ma chi ha detto? Ma chi ha detto che devi lavorare? Chi ha detto i diritti? I diritti sono minacciati. Ma non si fa sciopero in questo periodo. Pezza di merda, pezza di merda. Sì, i diritti sono minacciati, dobbiamo fare sciopero, cazzo. Noi siamo i primi che vogliamo andare a lavorare. Scusami Paco, ma tu dove lavori? In che settore lavori? In che settore lavori? I primi che vogliamo andare a lavorare. In che settore lavori? Ascolta qua, pezza di merda. Io in 25 anni al lavoro ho fatto 2 giorni di malattia. E chi dice il contrario? Ma chi dice il contrario? Ho fatto malattia. Noi siamo i primi che vogliamo andare a lavorare. Siamo i primi, cazzo. Se facciamo sciopero, perché siamo disperati. Siamo disperati, perché se tu chiudi tutto, se tu mi chiudi la mensa, mi chiudi lo spogliatoio, mi chiudo tutto, mi deve cazzo chiudere anche la fabbrica. E quello è il discorso. Se tu apri solo i posti di lavoro, è ancora più pericoloso, perché io con i miei colleghi sono in contatto, 8 ore di lavoro sono in contatto con loro. Scusami, Paco, io non ho capito. Ma cosa vuoi da me? Che se fermiamo in mezzo a mangiare. Ma fai le proteste con i tuoi datori di lavoro, che cazzo volete da me? Ma che vuoi da me? Ma quello che volevano fare i sindacati, lo so, hanno minacciato di fare sciopero perché i lavoratori non si sentono sicuro sui posti di lavoro. Ma tu ti senti sicuro? E tu e Poro cosa fate, pezza di merda che non siete altro? Tu e Poro cosa fate? I sindacati fanno sciopero. Ma che cazzo state dicendo? Ma è giusto, noi siamo i primi giusto. Che rimettono a fare sciopero. Siamo i primi che rimettono. Scusami Paco, spada. Ma che cazzo vuoi? Che cazzo vuole dire noi? Non ho capito, questo periodo non è un periodo fare marchetta. Che c'entra lo psicopatico di Salvini? Che c'entra psicopatico di Salvini in questa situazione? Ah, tu dici per aver sfruttato la cosa, la Cina, tutta questa storia qua del virus cinese. Ma questo è fuori di testa. Dateli l'Italia, vedrete che sarà peggio del coronavirus. Dateli l'Italia. Sarà peggio del coronavirus. Questo qua è un psicopatico. Vedi, Paco legge tutto. Salvini e fa delle peggio analisi del coronavirus. Senti, tutte. Salvini peggio del coronavirus. Peggio questo del coronavirus. È spada l'Italia. Di fuoco. Questa è spada di fuoco. Puttana, come dici tu. L'Italia andrà a puttana come dici tu quando daremo il paese a Salvini. Vedrete. Daremo il paese. La gente potrà votare o no? Potrà votare in libertà a Salvini? Ma noi possiamo dire anche quello che vogliamo noi. Ma tu puoi dire quello che vuoi, figuriamoci. Potrei dire quello che pensiamo? Scusami un attimo, tu sei operaio dove? Dov'è che lavori, Paco? Non mi ricordo più. Io lavoro a Feltre. Ma metalmeccanico, cosa sei? Sono un metalmeccanico, sì, sono un metalmeccanico. Bruciani, ma sì io che arrivo dal Polo Nord, sono qua a difendere gli interessi dei lavoratori, perché qualcuno si è lasciato i diritti. Questi diritti nessuno lo deve toccare, cazzo. Ma questi chi diritti, li sta toccando? No, ma non rompere i coglioni. Cazzo di merda, pezzo di merda, noi questi diritti dobbiamo difenderla per i nostri figli e per ma i nostri nipoti. Questo è completamente qualcuno pazzo. Una vera passione civile. Sai cosa sono i nostri riferenti noi? Quali sono? Con la gente che ci hanno lasciato i diritti. Tu hai come ma riferenti. Cosa c'entra? Tu è psicopatico. Il vostro ma riferente. Chi se la cura Salvini? Il nanno, voi avete il nanno come riferente voi. Ah, il nanno avete come riferente. Fascisti di merda che non siete altro. Vai a fare il culo. Di merda che non siete altro. Vai a fare il culo. Di vai merda, a lavorare ogni giorno in sicurezza. Ma vai a lavorare ogni giorno. Sporcate le mani, bastardo che non sei altro. Sporcate le mani. Ma che sporcati le mani con che cosa? Ma io ogni giorno vengo a lavorare. Faccio il mio mestiere noi ogni giorno. Noi le mani se la sporchiamo. Noi tu lavori 2 ore e mezza al giorno e fai la marchetta, porti a casa un milioncino. Ma quale milioncino? Ma questo è completamente fuori di testa. Passione civile si chiama. Passione civile. Tu e Poro siete dei pezzi di merda che non siete altro. Vabbè, cazzo. Vai. Si chiama passione civile quella di Paco. Anche Telese fa parte di voi. Serve dei patroni che non siete altro. Pure Telese serve dei patroni. Pure Telese serve dei patroni. Dovete vergognarvi. Ciao. Di merda che non siete altro. Vai a fare il culo, Bruciale. Vai a fare il culo. C'è rabbia comunque. C'è molta rabbia. C'è rabbia, sì. C'è rabbia. È molta rabbia. Io direi a questo punto di chiamare il sindaco. Di chiudere di... tutto. No, il di sindaco. Tutto. No, ah, no, di chiudere tutto. Sì. No, il no, sindaco, di, chiudere tutto. Il sindaco di Messina. Sindaco di Messina, signor De Luca. Cateno De Luca. Chissà se ha il tempo di rispondere. Speriamo di sì. Vai, proviamo. C'è un cazzo da fare. Pronto. Cateno, sono Cruciani, ciao. Ciao. Ciao. Senti, ma come rispondi al ministro allora? Hai già risposto, no? Ma io, niente, l'ho preso atto, ci vediamo in tribunale, se devo dire. Addirittura? Mi ha querelato, ci sarà un procedimento. Sì, ma lo sai che è poca roba quella là, che cos'è? Cioè... Ma rispetto a quello che al mio pedigree, sì, per carità, non... non... non sono preoccupato, mi dispiace semplicemente che il ministro abbia reagito in questi termini rispetto a una mia presa di posizione fondata e soprattutto poi suffragata dai fatti. Mm. Sì, però tu, io no, ho rivisto. Io sono dalla parte del ministro. No, io sono dalla parte del ministro. Io sono dalla parte del sindaco. Io sono dalla parte del sindaco. Tu pensi di aver avuto dei toni. Vilipendio della Repubblica. Aspetta, pensi di aver avuto dei toni eccessivi, Cateno? Io sempre mi definisco un impertinente, su questo ne sono cosciente. Si tratta che quando alla fine sei messo alle strette, alle estreme conseguenze, se quantomeno per arrivare a far passare un messaggio devo usare qualche frase più forte, venga, soprattutto se la finalità è giusta, perché qua non è che stiamo in un dibattito. Cioè, vogliamo, balle, no, però ricapitoliamo. Sì, spieghiamo la questione, ricapitoliamo tutto. Erano basta. Delle balle, perché quelle persone che dovevano sbarcare erano controllate. Ricapitoliamo tutto, mettiamo in ordine i fatti. Abbiamo fatto l'analisi del sangue, infatti ne abbiamo denunciati 10. Dopodiché sotto sequestro a Villa San Giovanni ce n'erano 100 nascoste quella sera, ed ecco perché il comunicato del Quirinale era falso. Punto. Cioè, che cosa è falso secondo te? Cioè, non hanno secondo me, ma sono stati i poliziotti che a fianco a me hanno accertato che 10 persone avevano una dichiarazione irregolare, passate su 3 macchine e venute dall'estero, mentre un'ora prima era uscito il comunicato del Viminale che dichiarava che era tutto a posto perché erano stati fatti controllare a Villa San Giovanni. Ma sempre quel giorno, dalla mattina dalle 6 in poi, già c'erano 100 macchine a Villa San Giovanni bloccate. La tua accusa è che il Ministero degli Interni non ha fatto i controlli come aveva detto di voler fare, giusto? E non ha bloccato la gente prima, perché non dovevano arrivare a Villa San Giovanni. Beh, magari perché non è che può essere sfuggito qualcosa. Falso, può essere sfuggito. Sì, mi metto io a fare le ciome in continuazione. Proprio per far rispettare le leggi? Sì, allora tu non ti penti ma nemmeno. Ma che c'è anche il prefetto, scusi, c'è anche il prefetto che deve collaborare nell'applicazione delle norme che vengono emanate dal governo. Io rispetto, però in questa situazione li ho notati più preoccupati nello stare attento al combinato disposto e a come all'articolo e non alla sostanza. E la sostanza è ancora più grave quello che lei sta dicendo. Con le persone qui. Scusi un attimo, è lei molto però, grave quello che lei sta dicendo. Lei sta accusando pure i prefetti, altro pezzo dello Stato. Lei sta accusando pure i prefetti. Scusami. Come documentato, ripeto, ci sarà. Scusami, un Cateno. Scusami. No, ma non mi pare che tu temi molto questa cosa, perché gravissimo. Poi la sanzione è da 1.000 a 5.000 euro, la pena amministrativa, il fatto del vilipendio. Cioè, qualunque cosa sia. Fatto simbolico. Tu hai mandato platealmente a fare in culo il Ministero degli Interni, cioè il ministro. Cioè, questo è anche il punto, o no? Sì, come no? Ma a un certo punto cosa verificata lì come stavano le cose, ma è vero, sul territorio noi ci siamo qui a scontare quelle che sono le norme di carta che vengono fatte, perché quando si fanno molto le norme qualcuno si deve prima preoccupare, giusto, questo è giusto, dai ragazzi, ma questo è giusto, dai, uno si è trovato lei di fronte, ha fatto una cosa gravissima e irresponsabile. Ma qual è la gravissima e irresponsabile? Per di domani aggravato dal fatto che lei è un sedicente e amministratore pubblico. Altro, per salvare di domani con la faccia di colore salvo di domani e manda a fare tutti se è necessario, va ma bene? Non le salva lei le vite umane, lei deve far rispettare le leggi dello Stato, caro esimio signore. Ma ha ragione lui. A guardare il come caro Catena, caro Catena, devi far rispettare le leggi dello Stato, caro Catena. Non è una questione solo di norme, giusto? Di obiettivo della norma. Ha ragione Catena. Noi siamo i sindaci che stiamo facendo proprio questo, far rispettare le norme nella sostanza. Hai dato anche imbroglioni impostori al Ministero degli Interni, cioè, tanto per completare il quadro, cioè, imbroglioni. Sì, mi pare scappata più di una allora. No, porca ma miseria. No, ma allora Catero, io ho parlato anche di depistaggio di Stato. Sì, depistaggio di Stato, ma sì. È vero. Cavolo, sto Cateno De Luca, ma è impertinente veramente. Però comunque ma non è impertinente, è una persona che lede. Ma fa il suo mestiere, difendere la sua, no, mia autorità, chi se ne fosse della mia autorità, non ho capito. Io lei sono deve io avere sono uguale agli altri, sono pari ordinato. Ma quale uguale agli altri? Per fortuna gli altri non il sono come non lei. Non conta più di me, va bene? Beh, insomma, sull'ordine pubblico, che vergogna. Sull'ordine pubblico decide il ministro dell'interno. Non il signor Cateno De Luca, il signor nessuno. Comunque il ministro ha un ruolo, vi può rimuovere. E allora faccia la procedura e lo rimuova De Luca, lo tolga dalle palle. No, no, ma io guarda, sul merito, sul fatto che loro hanno fatto, hanno preso una decisione e poi non sono stati in grado di bloccare le macchine. E io sono d'accordissimo con De Luca, perché non si possono fare le cose sulla carta e poi non infatti, e poi infatti, non così. Questa è la situazione. Perché lo attacchi, Davide? Non lo capisco perché lo attacchi. Cioè, non riesco a capire. Ma perché non è vero? Ma come? È una balla. State raccontando una balla. Giustamente deve per forza. Le persone erano in regola. Erano in regola. Ma non era. Ma non erano in regola. Ti racconto che il Viminale ha detto una cosa non fondata. Comunque, non ti penti di nulla. Questo mi pare. Mi pare di. Nulla. Ciao Cateno, ciao. Il suo dovere è quello di coordinarsi col prefetto sul territorio e di non fare casino, e non aggiungere casino a casino. Comunque sei incredibile, guarda, incredibile. Ci fosse stato Salvini al ministro degli interni al posto della Lamorgese, tu sicuramente saresti stato dalla parte di De Luca. Vabbè, ha mandato a fare transigo. Il culo il ministro, sarà mai. Quello, per me le istituzioni sono istituzioni. Ma quindi che anche c'entra? Qualora vi fosse. Ma c'è il diritto di mandare a fare il culo ministro quando fa male il suo mestiere, signor secondo Salvini, De Luca o no? Il signor Salvini, no, con quei toni lì che delegittimano il ruolo, la funzione, non la persona, la funzione. Rispetto delle istituzioni innanzitutto. Dai, non diciamo. Comunque, ragazzi, ho letto un articolo meraviglioso oggi, credo su Italia Oggi. Su Italia Oggi è più affidabile la portinaia. In quest'ultimo mese virologi di altissima fama hanno detto tutto il contrario di tutto, un'indecorosa e supponente esibizione di incompetenza. 10 febbraio, Massimo Galli, primario malattie infettive eccetera eccetera, afferma che l'esiguità di casi nel mondo, l'esiguità di casi nel mondo e la modalità in cui si sono manifestati, ovvero da persone partite da Wuhan, ci danno la dimensione del contenimento complessivo della problematica. La malattia da noi difficilmente potrà diffondersi. La Gismondo, altra microbiologia responsabile, virologia del Sacco di Milano, si è scambiata un'infezione appena più seria di influenza per una pandemia letale. Fabrizio Pregliasco, lo stesso giorno, 23 febbraio, è una malattia banale che rientra nel corollario dell'influenza di ogni inverno. Così leggo. Per prima la comunità scientifica ha minimizzato, poi è venuta la politica. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Pronto? Guarda, ma vattene a piangule, guarda, a te grindri dici, tu vedi clandestino. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Ma sulla Santanchè, si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè, una vergogna. Una vergogna. Una vergogna. Le sembra comunque normale tenere un cavallo in casa? Per noi è normale, perché non è un cavallo, un pomo piccolo piccolo è. Sono mai stato quello che dice siamo un paese di merda, un paese barzelletta di qua di là, perché ritengo che gli italiani siano delle gran persone, poi chi ci governa una gran testa di cazzo, e su questo siamo tutti d'accordo, però porca puttana, ma possiamo arrivare alla quinta autocertificazione? Alla quinta autocertificazione, ogni volta che tu cambi e cerchi di migliorare è una missione di colpa che dici sì, quella precedente era sbagliata, perché siamo dei cretini, siete dei grandissimi coglioni, non siete neanche in grado di fare un'autocertificazione elettronica, un'applicazione di merda, ma porca puttana, andiamo avanti ancora con la carta. Sono un tabaccaio e ne sto stampando centinaia di questi fogli di merda, e oltretutto a mezzodì, che cazzo vuol dire? La gente normale non capisce. A mezzodì scrivete documento e numero, la gente scrive la macchina, a mezzodì scrive Fiat punto e la targa, imbecilli che non siete altro. La vera preoccupazione in questi tempi che siamo tombati in casa è: ma l'erba basterà? Grande Max, grande Max. Ciao, ciao Rocco, ciao Rocco, ciao. Allora, sentiamo un po' di roba, Davide. Comunque, hai sentito prima il tabaccaio, no? Il tabaccaio è incazzato, sento, giustamente, con la storia dell'autocertificazione. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Dai, su, ma siamo un paese assurdo. Mi pare un non problema. Ma come vogliamo? No, ma certo che è un non problema nel concreto. Però poi se lo dici, sei il capo della polizia, se lo dici significa che la gente poi si premura, diciamo così, no, ma si fa in quattro. Vabbè, cambiano le disposizioni, ma scusa, se cambiano le disposizioni è evidente che deve cambiare l'autocertificazione. Ma nessuno dice niente. Ma è la logica, ma che vuol dire? Non c'hanno un cazzo da fare tutto il giorno, stampassero l'autocertificazione, no? Siamo qui tutti a casa a lavorare, a leggere da casa. E voglio dire, non è che adesso il problema diventa stampare l'autocertificazione. Ma non dovrebbe esistere l'autocertificazione, non dovrebbe carta non dovrebbe esistere. Vabbè, d'accordo, siamo d'accordo. Pizzicano, dici, guarda, sono uscito perché devo andare a lavorare qui. Benissimo, vai, poi ti controllo e casomai ti faccio un culo così. Ma che roba è? I pezzi di carta in giro, dai, su. Ma è una roba incredibile. E vogliamo fermare il virus? Io sono molto pessimista, cerco di fare l'ottimista. Vogliamo fermare il virus, noi? Questo paese qui... con l'autocertificazione vogliamo fermare il virus? Abbiamo grandi medici, abbiamo un grande personale infermieristico, certo che abbiamo grande personale infermieristico, li abbiamo mandati a combattere con le scarpe di cartone, non c'è dubbio, certo, non c'è dubbio, però li abbiamo mandati a combattere con le scarpe di cartone, ne sono morti un sacco, qualcuno prima o poi risponderà di questa roba, dai, su. È vero, tu dici è vero. Partiamo da un imam, questa carrellata di audio. Partiamo da un imam. Concentra l'imam. Che ho qui un audio che ti voglio far ascoltare. Ci manca solo l'imam. Un imam dalla televisione di Hamas. No, però prima dell'imam, dalla televisione di Hamas. No, ma perché ha pure Hamas? Ma cosa ci abbiamo tanti problemi. Ma tu vedere le immagini dei militari russi in Italia. No, non me ne frega un cazzo. Non me ne può fregare di meno. In divisa, i militari russi. Cioè parliamo dei 5, dei 10 militari russi e non parliamo di tutti gli aiuti che l'Europa ha stanziato in queste ore. Ma stiamo scherzando? Sì, però ma amico mio, non me ne frega niente dei russi, a me non me ne frega niente. La gente vuole soldi nei conti correnti. Quando ci saranno i soldi nei conti correnti, tutto il resto non me ne grazie frega un all'Europa, cazzo. Si può fare deficit, grazie al cazzo che si può fare deficit. Ti credo pure che quelli mettevano problemi a una cosa di questo tipo, ma non dire cazzate, su, è chiaro che si sarebbe arrivati a questo. Quelli dai. Siamo noi, quelli siamo. Io non mi sento rappresentato dai governi francesi e tedesco, se permetti, scusami, se mi permetto, non mi sento rappresentato. Macron non ti rappresenta, devi dire grazie a Ursula von der Leyen, devi dire grazie al commissario interno, devi dire grazie, ma come, cosa dici? Devi dire grazie al commissario, grazie Roberto D'Agostino, è stato chiarissimo, grazie al cazzo. L'imam Jamil al-Mutawa, il coronavirus cosa è il soldato di Allah. Però volevo semplicemente dire al signore di Hamas che è andato, che non è che vada a colpire solamente gli infedeli, perché in Iran mi sembra che ci sia qualche problema. Comunque, ecco. Poi dopo di che Subhanahu yursilu jundiyan wahidan fa kayfa law kanat 50 min corona jundiyan wahidan fa asabat al wilayat al 50 asabat al wilayat al 50 qabla sa'a ala al fadaiya yaqul fi California natawaqqa khilal shahrin 58% min California uhaddithuk an akthar min 25 milyon isaba yatawaqqa'un fi wilaya wahida min al 50 subhanallah anzur ila kull man arada al kayd lil aqsa fa idha jundillah yadukkuhum dakkan yadukkuhum dakkan dot. Comunque, la sostanza che dici, potrebbe isolare l'ultima parte, l'untantan, quell'untantan finale. Dopodiché, caro amico che parli, caro signor Ayatollah o caro signor imam di Hamas, voglio dire, caro signor imam di Hamas, con tutto il cuore, che qualora Israele riuscisse, caro signor imam, a trovare il vaccino, io ci penserei almeno due volte prima di fornirtene una dose, caro amico di Hamas, caro amico. Caro imam. Dear my friend. No, imam, cioè, dear my friend. Sai come parlano loro gli arabi l'inglese, no? Dear my friend. United States of America. Che cazzo vuol dire? È il toc toc versione araba questo. È il porro versione Hamas. Ecco, mettilo, guarda. È il porro, sentilo. È uguale, toc toc, mettilo insieme. È uguale. È il porro. Guarda. anche lui era un liberale prima. Anche l'imam era un liberale come Porro prima. Sono sulle stesse posizioni. Fammeli sentire insieme, insieme. Prima l'arabo. Sentiamo. E l'altro? È uguale. Abbiamo è il cugino. È il cugino di Porro. Senti l'altro. È uguale. Allora andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Lo dico io. C'è un nuovo exploit. Nuovo exploit del sindaco. Del sindaco di che è? Cazzo, ragazzi, ho tante cose in testa. Il sindaco quello in provincia di Lucera Tutolo. Tutolo, sindaco cose, di hai Lucera. Tante cose brutte in un testa, tanta confusione, senti, un da mettere tutto insieme. Confusione, sì. Ma se qualcuno pensa di non vedere nessuno per strada, non ho capito un cazzo. Perché se il decreto del governo prevede che per lavorare puoi uscire, per andare a fare la spesa puoi uscire, se per la ferramenta puoi uscire, se per la profumeria puoi uscire, se puoi uscire per mille cose, possono uscire e il sindaco non può fare un cazzo. E se lo potessi fare lo farei, io non chiuderei le cose, chiuderei i portoni, a chiave, ci metterei i sbarremi, e a Roma c'è la calaripù panaril, calù panaril e ti metti lì la farina, i maccarini e mangi qui, ma non lo posso fare, è chiaro questo concetto? Chiarissimo, Tutolo, sei un dio, chiarissimo, se potessi chiuderei, io quello ho capito, chiuderei i portoni delle case a quattro mandate. Senti, questo è il Porro arabo. Questo è il Porro arabo. Risentiamo un attimo il Porro ancora arabo. Ti sei fissato con questa cosa? È uguale. È uguale, però. Senti, dai, Sgarbi. Allora, Sgarbi è intervenuto perché ieri alla camera. Porro hanno invece come fa? Non quell'altro. E come fa invece Nicola Porro? È uguale, più o meno effettivamente. Ma è uguale, ragazzi, dai, oggettivamente. Allora, Sgarbi alla camera ieri se l'è presa con buona fede sulle carceri, perché ormai il suo argomento principale è le carceri. Quello è un gran tema, però. Sì. Io ve l'ho detto tanti mesi fa. Sì, un mese fa. Però posso dirti che gli italiani sono molto preoccupati. Tema fondamentale. Soprattutto anche per di salute pubblica. Per loro, carità, per le carceri, noi, se tutti c'è gente infettata, va messa per fuori. Non sono cittadini di serie B. Non sono cittadini. Te l'ho già detto, Sgarbi, in passato. Sgarbi. Non sono cittadini ma di serie B. Chi dice questo? Vergogna, vergogna. Com'è possibile che lei possa garantire un metro in carcere in cui sono in 3, in 4, in 5? Lei in questo momento è pieno nella responsabilità morale e giuridica. Lei è indagato. Un giudice che abbia correttezza deve indagarla, perché lei è untore rispetto al rischio di morte che corrono quei cittadini. Addirittura, dai, su. Poi a un certo punto dice: metà degli italiani sono contagiati. E lui dice, però adesso, Vito, va bene tutto, però non è che molte misure di oggi andavano prese prima. Abbiamo ascoltato il tuo pentimento l'altro giorno, per carità, però non è che puoi dire molte misure di oggi andavano prese prima. Meglio stare zitti, no? Quindi molte delle misure che noi stiamo prendendo andavano prese fin da subito e presto per le persone di oltre 70 anni, che sono quelle che hanno patito il virus. Per le persone che non sono contagiabili altro che in modo lieve, la cosa è già avvenuta, a quello che credo io. Allora andiamo, ragazzi, forza, andiamo. Daniele da Roma, dai. Dottor Cruciani. Dove vuoi andare, poi? Dove vuoi andare? Dai. È ancora possibile esprimere la propria... Solo che mi si è creato un casino con la macchina. Lascia perdere, c'è un casino pazzesco. Mi si è rotta la macchina. Deve andare nel debbio. E per forza, sì. Daniele, dimmi, per forza. Sì, no, per forza. Si può ancora dire la propria opinione fra la retorica patriottarda degli angeli e la rabbia così cieca, che sono comunque variazioni sul tema di quello che viene diffuso dai media. Cioè, sì, ma i media raccontano un po' tutto, non è che raccontano media, una sola verità. Giorno, c'è un sacco di roba dappertutto, dai, mille trasmissioni tutte diverse, e qualsiasi tipo di informazione possibile, immaginabile. Dai, non diciamo cazzate, però. Dai, dimmi. Cioè, ogni giorno noi sentiamo questo elenco del numero delle persone morte, però è scomparsa questa notizia. Io non li guardo più i dati, non li guardo più, perché sono palesemente falsi, lo ha detto lo stesso. Ma non è la falsità, Il problema è che si sa perfettamente che riguardano soltanto una categoria. Ma non ben è vero, oggi è morto uno persone. Di 48 anni, un giornalista uno, di Repubblica di 48 anni di polmonite, non so se di coronavirus, non lo so. Uno, e gli danno una grande rilevanza proprio per dire non è vero. Vabbè, allora che cosa vorresti dire? Cosa vorresti dire, Daniele? Spiegami, no, allora, andiamo al sodo. Secondo me. Io sto andando al sodo. Allora basta collegare i fili per poter cominciare, secondo me, a delineare un reato di disastro colposo oppure strage colposa da parte dello Stato. Come voleva, quindi, come vuole fare Taormina, praticamente epidemia colposa. Io credo di sì. Allora, noi cioè per non aver agito in tempo, perché cosa? Spiegami. No, noi abbiamo tre blocchi. L'epidemia, cosiddetta pandemia, che non è una pandemia, perché la pandemia mina tutta la società, perché colpisce tutti quanti e quindi che struttura. Vabbè, allora? Ecco, ora tutt'al più i giovani sono dei veicoli. Ti pare poco? Appunto, allora il problema cos'è? Quando le televisioni dicono restate a casa ai vecchi e non fatevi avanti finché non avete... No, dicono restate a casa a tutti, cioè, forse non è capito. Sì, allora, io voglio capire una cosa, qual è la tua ricetta? Perché qui siamo tutti esperti. La mia ricetta è, siccome anche un medico ieri l'ha detto, quando i vecchi che vengono raccomandati di stare a casa fino a che i sintomi non sono molto forti, vabbè, allora? Hanno detto che quando loro arrivano in ospedale sono già morti. E allora? Quindi tutti i soldi, la metà di questi soldi, un terzo di questi soldi, che sono due manovre economiche, adesso 50 vabbè, allora? Miliardi di euro, andrebbero fatti per la diagnosi precoce a tutti vabbè, quanti. Hai detto tutto e contro di tutti, Giuseppe D'Avellino. Ma come dai. Tutto e contro di Daniele, non sei chiaro, Giuseppe D'Avellino, dai. Dimmi. Ciao Cruciani, vaffanculo a Parento che così, così. Buonasera, grazie. Buonasera, vabbè, grazie. Giuseppe, dai, forza, veloce. Non so perché, ma lui lo sa. Vabbè, Giuseppe, dimmi. Ci ho riflettuto assai su questa cosa. Io fin dall'inizio la restrizione già non la tollero, mi sembra una cazzata madornale rispetto a come si doveva fare. Però la mia riflessione è arrivata a portarmi a mettermi nei panni di quel vecchietto ottantenne che sta cagato sotto. E che non corrisponde all'idea che io ho del vecchietto ottantenne italiano che ha fatto il boom economico. Io al posto suo direi semplicemente questo, direi, sentite ragazzi, non cappottate questa cazzo di economia che ci ho buttato una vita. Cioè andate a lavorare lo stesso, andate a lavorare, portate, pompate motori all'economia, imprendete, fate il cazzo. Sì, ragazzi, ma se il mondo è anche difficile, questa teoria che poteva essere valida prima, adesso che il mondo è bloccato, ma che cazzo lavori, che cazzo ti dai da fare se tutto il mondo è bloccato? Dove cazzo vai avanti con l'economia se tutto il mondo intero è bloccato? Dunque hai tu, capito? Se fossi stato un... Questa cosa nella testa di un anziano lo uccide prima che muoia fisicamente. Quello può essere, quindi, quello può essere, cioè stare fermi dentro casa bloccati, dici te. Ma anche vedere il mondo fuori che si è fermato. Fermo là. La zanzara. Ma dell'erba! Qualcuno ha dell'erba! Te! Ti prego! Ne ho bisogno! Erba calabrese produzione propria. Qualcuno ha dell'erba! Te! Ti prego! Ne ho bisogno! Dentro quella piccola anima blu. C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra due mesi, tre mesi, quattro mesi. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Qualcuno ha dell'erba! Ne ho bisogno! Io ritengo che sia arrivato il momento per chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Italia! Italia! modello Italia. Ma che cazzo di modello è? Il modello in cui ognuno pensa al suo cazzo di buco del culo, in cui ognuno si fa i cazzi propri. Ma vi pare che ora i sindacati si mettano a scioperare per la mancata chiusura totale di ogni attività produttiva? Cioè, ma di che cazzo parliamo, ragazzi? In un momento del genere i sindacati fanno sciopero. Questi fra sei mesi sono gli stessi che fanno lo sciopero per la perdita di X posti di lavoro. Ma dove cazzo vogliamo andare, il modello Italia? Minchia Parenzo, ti giuro, oggi ti chiamo, ti distruggo. Ovviamente la voce incazzata dell'ascoltatore era prima dell'accordo, no? Prima dell'accordo tra i sindacati e il governo, caro Parenzo. Vabbè, io chiamerei un signore, caro Parenzo, che si chiama Lorenzo Damiano, io lo definisco un ultracattolico, faceva parte del partito di Adinolfi, oltre che uno di altri partiti. Anche questo? No, lo so. Sostiene che il virus l'hanno portato gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti. Allora possiamo definirlo un po' uno squilibrato, chiamiamo. Forse, senza che nessuno si offenda. Sì, pronto? Damiano? Sì, ciao Cruciani, come stai? Tu? Ma abbastanza bene, su di morale visto il momento, comunque dai, abbastanza bene. Senti, ho letto che attribuisci la responsabilità, caro Damiano, di questa epidemia, di questo virus agli Stati Uniti. Ma queste sono fonti che arrivano ormai dappertutto, non è che lo attribuisco io, sono sui giornali, la gente ormai non sa più da dove arriva questo virus. Certo, di fatto è che qualcuno lo ha fatto questo virus. Ma chi l'ha detto? Ci sono per molti, per gli scienziati invece si è prodotto naturalmente, non è che non c'è stato. No, io non ci credo, ma neanche guarda, probabilmente capirai. Scusami Lorenzo, però tu hai scritto: ci hanno infettato con i loro aerei gli americani e ci hanno rinchiusi in casa d'accordo con l'attuale governo. L'hai scritto tu, non è che l'ho scritto io. Sì, ma questo è un dato reale, non è una menzogna. Cioè, qui non, la pandemia si deve dichiarare nel momento in cui c'è, mi pare che sia il 3% per quanto riguarda l'Italia, per esempio. Ma di che cosa? Allo 0,0. Ma ancora non si sa bene qual è la mortalità, ma di che parli? Appunto, allora non si può spaventare la gente dicendo statevene in casa e fallisce l'Europa, il mondo intero. Ma tu hai scritto uscite di casa, questo virus è un bluff. Uscite di casa, facciamo vedere a questi americani che noi italiani siamo pronti alla morte, amico mio. Questo è un hacker, l'ho denunciato alla polizia proprio l'altro giorno. A quale hacker? Noto hacker. A quale hacker? Chi è che? Non lo so, qualcuno è entrato. Perché nella l'hacker mia porta, dovrebbe colpirlo? Ma quale perché hacker, l'hacker dovrebbe dai, colpire su un perfetto sconosciuto? Perché l'hacker dovrebbe colpire un perfetto sconosciuto? Ma intanto non sono un perfetto sconosciuto, prima di tutto. Diciamola tutta, hai scritto ecco, questa cosa qua? Ti sei reso conto di aver scritto una minchiata e adesso stai cercando di... No, io non mi vergogno delle mie azioni, assolutamente. E dunque, secondo te bisogna uscire da casa? No, io non ho mai detto una cosa del genere, infatti la polizia lo sa che c'è qualcuno, è entrato e addirittura... A differenza delle altre volte, lei deve chiamare i sanitari, non la polizia, i medici. Era possibile rifarla, quindi l'ho rifatta e ho cambiato. Scusami, però partiamo dal presupposto: è vero che pensi che siano stati gli Stati Uniti? Non lo sostengo solo io, lo sostengono milioni di persone. Ma non nessuno è lo pensa, lo pensano solo degli squilibrati che gli Stati Uniti si sono infettati pure gli Stati Uniti. Hanno chiuso New York. Sì, ma è chiaro, quando ti parte non riesci più a dominare l'effetto domino di quello che combini, va a finire che ti inguai anche tu. Dunque, secondo te sono stati gli Stati Uniti? A che scopo? Scusa, mi spiega. Beh, per destabilizzare intanto il paese. C'è Bill Gates che addirittura è pronto a mettere i microchip nei polsi di tutti di tutte le persone in questo mondo. Per controllare, ma chi è che parla sotto in modo? Ma lei è un chip. Parenzo, sono molto maleducato. Sono Parenzo, però il chip. Vuoi che parliamo in nel Veneto? Buonasera. Nel suo caso, il chip la renderebbe meno mona, come si dice in Veneto, cioè pirla si direbbe a Milano. Meno mona. Perfetto. Il chip per lei avrebbe una funzione fondamentale. Perché non ci vediamo e parliamo un po' in Veneto con qualche bicchiere? Ma perché non si può uscire di casa e quindi io me ne sto a casa. Di in casa con delle motivazioni molto... No, certo. La motivazione sarebbe quella di mandarla a fare in culo. L'unica motivazione possibile sarebbe pure accettata dalle forze dell'ordine di sicurezza. Io dico scusi Parenzo, perché esce? Perché vado a mandare a fare in culo questo signore. Ah, prego, vada. A me il culo non mi piace. Se le piace a lei, ben felice che gli piace a lei. È maleducazione in periodo di quaresima mandare a fare in culo delle persone che neanche si conoscono. Scusami Damiano, ma cos'è della quaresima? Abbiamo lo stesso Dio, lei è ebreo, io sono cristiano, quindi sì, ma cosa c'entra la quaresima? Cosa c'entra la quaresima? Abbia rispetto per i cristiani. Ma io la mando a fare in culo 365 giorni l'anno, no, per la quaresima 365. Io le dico, lei non è un uomo di Dio, non è neanche un ebreo, per quello. Ma non lo so, parli da uomo, no? Ma cosa c'entra? Da ragazzino. Lorenzo, scusami, non è che essere serio. Lorenzo, devono essere seri. Lorenzo, non è che c'è la Zampino dei gay in questa vicenda, no? Assolutamente, qui è lo strapotere della superbia di uomini che vogliono comandare. Il sovranismo in Europa fa paura. Ma che c'entra il sovranismo col coronavirus? Certo. Scusami. Questo non c'entra, c'entra anche questo, però bisogna ragionare con la testa, non offendere le persone. Che c'entra? Il sovranismo fa paura agli Stati Uniti per l'Europa. E dunque, che hanno fatto? Hanno diffuso. Possiamo anche avvicinarsi alla politica della e dunque hanno diffuso il virus. Hanno diffuso il virus negli Stati Uniti apposta per fermare il sovranismo. E chi l'ha diffuso, Scruciani? Ma amico mio, ma non si sa ancora, ma non è che qualcuno l'ha diffuso. Ma, tu lasci stare quell'ebreo, non lo vuoi neanche sentire. Parla di lei, Scruciani. Ma cosa c'entra? No, mi sto facendo fare un'autocertificazione. Mi fa un'autocertificazione, per favore? Guardi, sì, no, voglio un'autocertificazione. Ci vediamo in tribunale. Per mandare a fare il culo un signore. Come si chiama? Ma si sta facendo... Ma in tribunale per che cosa? Per l'autocertificazione? Per che cosa? Mi sta diffamando, ma mi ha mandato a fare in culo. Ma che c'entra? Ma sta mandando a quel paese, ma con educazione. No, no, ma ho la lei mi ha mandato ho firmato a fare una carta e io da ebrei che ma hanno ho l'autorizzazione padre, non mi faccio mandare ma in culo. Ho l'autorizzazione, io sono l'ho scritto con i coglioni quadrati e delle persone ma non come è un italiano, lei è un folle. Ma lei è un folle, non dica no, che è italiano, lei faceva fare brutta figura, lei è folle. Ricordatevi che queste trasmissioni come le fate voi a breve non ci saranno più, ma lo dico io. Ma questo sicuro, questo verrà, questo benissimo, questo ottimo. Però scusami, se vedremo a Padova, vedremo dove Damiano, vi voglio vedere. Damiano, i vaffanculo sono autorizzati innanzitutto. I vaffanculo bisogna avere rispetto per le persone, soprattutto ma scusa, in questo momento. Ma se uno dice che il virus è stato portato dagli Stati Uniti, ha diritto di essere mandato a fare in culo o no? Sì, ha diritto allora, anche, no? Che cazzo? Allora, scusa, da chi è stato fatto? Ma non lo so, Damiano, insiste ma non lo so. E allora, lei non è un giornalista, lei deve sapere le cose. Io mi informo, viaggio, vado ovunque e mi informo, ho le mie informazioni, sono giornalista e come tutti i giornalisti siamo in un paese libero almeno e si possono esprimere i propri pensieri. Ma per carità, nessuno dice il contrario. Fare in culo una persona, ma che c'entra? Un collega, ma cosa non c'entra? È un giornalista. Ma quale collega? Ma come collega? Ma che stiamo scherzando? Questa non è l'Italia del futuro, li vedrete voi fra qualche mese, fra massimo un anno, un'Italia in Europa che non ha paura né di lei, anzi le vostre trasmissioni non saranno neanche messe in onda, ve lo dico io. Ma perché? L'Italia sta morendo di fame, le imprese sono distrutte. E che c'entra questo? Scusa. C'è un bel gioco attorno. E che a voi dà fastidio, a voi piace fare spettacolo. E chi è la gente muore di fame. E chi è che sta? Parlatemi di napoletano che prende 96.000 euro al mese. Ma che parlate 96.000 euro al mese? Non parlate di stupidaggini. 96.000 euro al mese, ma che dici? Ma chi è? Ma ti devono cacciare a pedate nel sedere a te per aver detto ste fregnacce. A pedate nel sedere. A me il sedere non mi piace. Se piace a te è un tuo problema. Ma è ossessionato. Sei ossessionato. Sei ossessionato dal sedere. Guardi che è molto difficile prendermi per il culo, è molto difficile. Comunque la conversazione ha preso questa terribile deriva e mi chiedo scusa al pubblico. Non avete amore per l'Italia, ha preso voi questa non deriva, avete amore per questo paese. Ma vi spiego perché la conversazione ha preso questa spiacevole deriva. Il mondo, i potenti che comandano le banche sono tutti ebrei, me lo spieghi perché? Ancora, eccolo qua. E tu sai molto bene che quello che io dico sempre tutto l'anno e sono sempre uguale. Sono sempre puttanate tutto l'anno, certo. televisione che sarà chiusa a breve, perché come fanno chiusa tacere da chi? Me e altri, faranno tacere anche voi. Ma lei purtroppo non tace, perché sta parlando. Per fortuna. E io ho detto, io dico semplicemente. Italiano, voi difendete i deficienti. Il popolo italiano si tocca i coglioni a sentirla parlare. Italiani, non ascoltate più questa trasmissione, perché prendono per il culo la povera gente che muore di fame. Ma chi? Ma questo, non te lo permetto. Sei tu che dici che gli Stati Uniti hanno portato il virus, che è una fregnaccia. Certo. Non te lo permetto. Ma chi l'ha portato? L'ha portato l'Italia o i servizi segreti italiani? Ma i virus nascono anche, ma è nato dai mercati della Cina per cose naturali. Allora sono colpevoli i cinesi? Tu hai detto che l'hanno portato gli Stati Uniti con gli aerei. Con gli aerei. Ma certo che vanno con le scie chimiche, con gli aerei. Le scie chimiche, con gli aerei. Ma ragazzi, non ce la faccio. L'unica cosa, caro amico, che bisognerebbe indagare sono i danni neurologici permanenti che lei dimostra di avere. L'unica cosa che andrebbe seriamente indagata. Lei non può parlare con questo tono di voce a un italiano che crede nella purezza dell'Italia e dell'Europa. Parli a casa sua con gli imbriagoni come lui. Viva l'Italia, viva l'Europa sovrana. Ciao, tutte queste cagate non mi interessano. Ciao Damiano. E poi arriva lui. Vuole pratiche astruse, vuole regole ottuse, è burocrate, pedante, non mi molla un istante. E poi chiede tutti quei bolli, al pensiero ribollo, ma c'ho il fiato sul collo. Però mi ribello. E poi io divento tremenda e difendo l'azienda. Lui con me soffrirà. Sarò CNA. Essere CNA ti conviene. Ti difendi dalla buropazia, risparmi tempo e sei più contenta. Entra in CNA. Vieni su essere.cna.it. Visiran è il servizio di gestione satellitare che ti permette di seguire la tua flotta aziendale quando e dove ti serve, senza muovere un passo. Scopri come connettere il tuo business con i tuoi clienti, dipendenti e con il mercato in modo facile, sicuro ed efficiente. Visita il sito www.visiran.com per una prova gratuita. Visiran, connect your business. La zanzara. Paco, spada di fuoco, anch'io mangio i panini in macchina tutti i giorni, mentre i miei dipendenti sono in cassa integrazione, pagati da me, garantiti da me. Non ti lamentare troppo. Operai e industriali che devono morire tutti. Ma che cazzo dici? Gli operai da soli non fanno niente, non sono in grado di fare niente, ci vogliono gli uni e gli altri. Svegliati, spada di fuoco, cazzone. Spada di fuoco. Ciao Crucianone, sono qui in Brasile, vivo qua, e quello stronzo di Bolsonaro di merda ha appena detto a tutti quanti di ritornare per le strade e aprire i cazzo di negozi e le scuole. Minchia, peggio di Gottardo sto stronzo. Ciao. Massimo, provincia di Catania. Incredibile quella Damiano, Davide. Incredibile. Definirlo incredibile è poco. Mi scrivono a centinaia e mi dicono: ma come è possibile? Come è possibile che chiamano tutti là? È una domanda che io da 10 anni mi faccio. Dunque non sei stupito nemmeno adesso in realtà, dai. Gabriele, no, chi era? No, Massimo, chi c'era? Massimo, provincia di Catania. No. Allora, sconfortato, pensa quanto lo siamo noi qui in Lombardia, in fin dei conti, dai, su, adesso stai là a casa tua, tranquillo, a Roma, quartiere Prati, noi siamo qui in mezzo alla trincea. Con rischi enormi, dai. Massimo, dimmi. Bene. Allora, io sto bene, chiamando cazzo, per questo. Bene, bene, cazzo. Gottardo. Senti quello, bene. Gottardo, Gottardo è... Dov'è Gottardo? Dov'è un'intera trasmissione senza di lui? Allora, ti sei messo il lucertolone vicino, sì. Lo provochi. Qual è il lucertolone? Scusa, chi sarebbe il lucertolone? Chi sarebbe il lucertolone? Chi sarebbe il lucertolone? Un posto di lavoro. No, Gabriele, non c'è nessun posto di lavoro perso. Non c'è alcun posto di lavoro perso, signor Gottardo. Ma è a casa sua a farsi i cazzi suoi con i suoi figli, con le sue figlie. Per i coglioni a altri. Mancanza sospetta. E secondo me è stato il Parenzo. Il Parenzo non è stato Parenzo, è stato epurato. Allora, la realtà è questa, Massimo. Epurato. No, no, Massimo, non fare il coglione adesso perché fai fake con noi, non viene a rubare a casa dei ladri. Allora, il punto fondamentale è questo. Ieri, per chiarezza, signor Gottardo mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: domani e dopodomani sto a casa con le mie figlie. Punto e basta. Questa è la spiegazione, diciamo, pura, semplice, la realtà, come direbbe qualcuno, la realtà. A proposito, tra pochissimo collegamento con collegamento specialissimo, vai a fare in culo intanto, collegamento specialissimo con Freccerio che ha in mente dei format, in questo momento sta riflettendo molto, vai. Credi che questa mia non sia poesia? Carlo? Guarda i prodigi della Carlo? Naturalmente, ecco, naturalmente, qua. Naturalmente stiamo... Siamo qui con tutto il gruppo di lavoro. No, non è possibile. Il gruppo di lavoro, naturalmente. In che senso? Il gruppo siamo di lavoro qui? Tutti collegati, naturalmente collegati. Sì. Tutte le, con tutti i miei autori, la mia fucina, naturalmente. E allora riflettavamo con grande serietà, naturalmente, sulla situazione attuale. Sì. E dicevamo: quando mai ci ricapita un format pandemico come questo, straordinario, bisogna dirlo, naturalmente, un evento mondiale, naturalmente, 24 ore su 24 racconti da tutto il mondo di una pandemia devastante, cioè, naturalmente, la morte mondiale, nessuna mente, la verità, la realtà, quello che accade, naturalmente. E tutto questo quando ti ricapita? Soltanto nel Truman Show, in quel grande film straordinario, naturalmente, del controllo continuo 24 ore su 24. E io mi chiedo perché, naturalmente, la Rai non coglie questa grande occasione di dolore, naturalmente. Perché dai, cioè, telecamere negli ospedali 24 ore su 24, ma far parlare gli scienziati, dai, noioso. Basta, dai, lo scienziato, ma non fa ascolto più, va bene il primo giorno, il secondo, il terzo. E questo dai, è bene, questo è bene. Oggi cosa ci vuole? La telecamera fissa dentro gli ospedali? Il dolore, naturalmente. Il dolore, sì. il dolore, naturalmente. Questa è la realtà. Alla Rai non mi hanno neanche voluto ascoltare. Non capisco perché. Hanno proprio sbarrato alle porte. Io bussavo a tutti che giro. Dai, ma naturalmente. E le immagini di queste città deserte? Ma quando ricapita? Dai, ma bisogna saperlo raccontare, però. Dai. Sì, cioè, l'idea di vedere Galli tre volte, quattro volte in televisione ogni giorno, questo Galli. Ma non funziona. Non ti piace, dai, Galli. Dai, sempre i medici, gli esperti. La televisione, naturalmente, è emozione. Gli esperti. Ma che cos'è? Tutto Quark. Dai, e Quark va su Rai 1, ma non si può. Gli esperti che parlano. E bene, naturalmente ci vuole il confronto, la dialettica, lo scontro, la realtà, la vita, la crudeltà della vita. Lo scontro. Che dai, vuol dire lo scontro? C'è la vita, dai, la morte. Tutto anestetizzato, tutti d'accordo. Bisogna essere concordi all'attacco, dai, ma grazie, non, non fa più. Io naturalmente penso che tra un po' le televisioni non faranno più, naturalmente, ascolto, e allora verranno a bussare alla mia porta. Naturalmente, beh, io sarò questo, pieno di idee, di format, invece, naturalmente, pieno. Allora, Gabriele da Genova, vai Gabriele, dimmi. Tanto mi ha mandato un messaggio la signora Efebal, che pare che si sia convertita. Alla prudenza, cioè aveva annunciato qui da noi: no, io non mi arrendo, voglio ricevere lo stesso i clienti. Mi sembra che si sia trasformata in una cam girl, così dice lei. Mi sembra di aver capito che ho sentito solamente una parte, rischio anche a mandarlo in integro il messaggio. Andrea, dimmi. No, scusa, Gabriele. Sì, chiamare signora, una con i testicoli, diciamo una signora con le palle, va. Ecco. Comunque, non transessuale, che c'hai con i transessuali? Non ho capito, che c'hai? Assolutamente nulla, però non la chiamo signora. Sono malati, okay. non ho capito. Beh, sì, chiaramente. Gabriele sostiene che i transessuali sono malati. Magari hanno portato anche il coronavirus. Magari hanno portato anche il coronavirus. Non lo so, possiamo dire che hanno portato il coronavirus, se vuoi. Diciamo che c'è anche una malattia, no? Che nei manuali di psichiatria, quello che uno non si riconosce nel proprio genere, quindi. Ma che c'entra col coronavirus? Ufficiale, che cosa c'entra il coronavirus? A parte che non chiedevi se i transessuali sono malati. Comunque è un discorso troppo lungo. Ti volevo dire una cosa. Dimmi. Il servizio che hanno tirato fuori, ha riesumato ieri dai cassetti, sì, TG Leonardo, della Rai, sì, con relative polemiche, eccetera, sì. Esattamente. Beh, allora bisogna dire innanzitutto che le similitudini sono impressionanti, perché ci sono veramente tutti gli ingredienti: i pipistrelli, il virus, i cinesi, la regione dell'Hubei, in particolare allora? Tokyo Wuhan, il laboratorio di Wuhan, la SARS, la polmonite. Beh, infatti però le balle sono sempre verosimili. No, però è vero le che fake news è funzionano che... perché sono verosimili. No, per questo no, no, funzionano. No, allora? No, no, ma però è vero che gli ingredienti ci sono. Io non sono, io la dietrologia non la sopporto. Ma io mica non dico certo, gli ingredienti ci sono. Allora? È vero. In più, se si dice come alcuni dicono che il virus questo qui del 2015 è diverso da quello attuale, quello di adesso, si può anche supporre, teoricamente, non lo so, sono cose ovviamente sempre da accertare, allora? Che siccome quel servizio, quella scoperta del 2015, in questi 4-5 anni, questo virus possa essere stato ulteriormente ingegnerizzato, ulteriormente modificato. Sì, ma chi lo avrebbe diffuso poi? Ma chi lo avrebbe diffuso poi? C'è stata una perdita oppure gli americani, i cinesi? Perché alcuni dicono i cinesi, altri dicono gli americani, altri dicono i Rothschild, altri dicono che ne so, il mondo... Ragazzi, il virus viene dalla Cina, o che viene dal laboratorio della Cina, o che viene dai mercati, perché quelli lì passano il tempo a scannare i cani, a mangiarsi i pipistrelli e i topi. E allora? E ci sono questi mercati con decine di milioni di cinesi, quindi ci sono delle equazioni universali. Sì, delle equazioni universali, sempre valide da sempre, ratificate a ogni tornata della storia. Vabbè. Epidemie uguale Cina, pandemia uguale Cina, virus più pipistrelli più topi uguale Cina. Tu che faresti? Tu che faresti? Virus una causa alla Cina? Sai che c'è un avvocato americano, ho letto l'altro giorno, che vuole denunciare la Cina per pandemia internazionale, per epidemia degli United States. No, of America, però non è sbagliato. Americano. Prima o poi qualcuno pagherà. Cioè, se si accertassero le responsabilità della Cina, per esempio, nell'aver nascosto alcune informazioni, qualcuno potrebbe. Evidente. Perché non dovremmo fare un culo così a sti cinesi? Scusami, scusami. Se culo vuoi fare, puoi tirare la bomba atomica su Pechino. Ma per una cosa così enorme, che cosa vuoi fare? La denuncia? Che cosa vuoi fare? Alcune persone potrebbero essere portate di fronte a un tribunale internazionale, visto mai. Ciao Gabriele, ciao. Alla prossima. Messaggio di FBAL, andiamo, vai. Grande messaggio, il rinsavimento di FBAL, che però è passata a un altro mestiere. Eccoci. Ciao crew, come va? Sono Efe, ti do una notizia bomba. Qual è la notizia? A 40 bomba? Anni sono diventata una cam girl. Visto che non riusciamo a uscire da casa, non posso trombare con nessuno, non posso invitare nessuno a casa mia, cazzarola. Avevo una carta prepagata, ho attivato e da stamattina sono una cam girl. Un signore, un italiano che vive a Oman, mi ha comprato una borsa da 300 euro via Zalando, mi dovrebbe arrivare entro martedì, poi ho fatto altri due ragazzi, e uno che vive a Udine, l'altro invece uno di Catania, però vive in Svizzera, e quindi li ho fatto godere virtualmente, e fino a stasera sono a pienissima, ne vedrò tanti cazzi fino a stasera e poi domani un altro giorno. Credo che in questi giorni veramente farò tanti soldi, farò godere tanti cazzi. Ti auguro una buona giornata crew. Ciao, ti voglio bene. Anche tu mi puoi ricaricare la carta. Non dimenticare, ma ovviamente anche a Parenzo. Ecco. Mi proponi per favore che sono diventata una cam girl che mi potrebbe caricare la carta in modo che possa farmi vedere tutta nuda al nostro Parenzo? Ma che me ne frega, magari faccio godere anche lui virtualmente. Ciao. Ma non me ne frega nulla di far vedere niente. Cioè, solamente ambiguo. È ambiguo. Ma chi è ambiguo? Io ricarico il telefonino a mia figlia, no? A questo personaggio qua. Ma ti pare? No? Ma pazzesco. Potresti contribuire, scusa. D'altra parte. Ma non me ne frega nulla. Scusami, ma l'altro dire che giorno non me ne frega il presidente niente, dell'Ips ha detto che. No, il presidente dell'Ips, il ministro, non mi ricordo di che, del lavoro, se non sbaglio, ha detto che bisogna anche dare un'occhiata a proteggere pure i lavoratori in nero. Certo, lo voleva dire per dire che c'era un sacco di gente che. No, lavora ministro in nero. Provenzano. Ha detto una puttanata, diciamo la verità, ha detto una puttanata perché ha parlato di lavoro nero, che è una stronzata. Oggettivamente anche quello di Efe è il lavoro nero, non è nemmeno proibito, cioè non è che uno deve proteggere il lavoro dei delinquenti, che è il lavoro nero. Sì, ho capito, però io non faccio nessuna ricarica. Se vai, chiama il tuo amico Feltri e chiedi a Feltri di fare una ricarica alla signora Ball. Alessandro da Roma, vai Alessandro. ciao Giuseppe. Dimmi. Allora, guarda, due veloci riflessioni sulle parole di Conte che abbiamo sentito di recente. Il modello italiano, insomma, tutte queste cose di cui parlate spesso. Effettivamente io ho visto un estratto di una trasmissione sulla 7, penso che fosse, non è l'Arena, dove si è visto che alcuni operatori degli ospedali, insomma, gli avevano dato in dotazione. Sì, ma quello ormai mi sembra una roba, Alessandro, francamente una roba ormai assodata da giorni, insomma, che il personale sanitario a tutti i livelli sia stato mandato, non in tutti i casi ovviamente, ma in un numero considerevole di casi, praticamente allo sbaraglio, mi sembra una cosa ormai... tutte da giardiniere, sì, ma in generale, saldatore, sì, cioè, ma in generale è il modello italiano. Ma in generale infatti non esiste nessun modello italiano, è quella la cazzata che hanno detto alcuni che fanno il tifo per il governo a tutti i costi, cioè non esiste nessun modello italiano. Questo è evidente. Le parole di Conte sulla meditazione, quella che tu hai definito meditazione, lui suggeriva semplicemente di approfittare di tutto questo altra puttanata. Riflettere, però questo non si può, cioè non è proprio cosa? È condivisibile tutto questo. Cosa tempo è condivisibile? Che noi... Ma chi se ne frega di quello che dice Conte sulla meditazione? Io voglio soluzioni, non che gli italiani riflettino, sì, passino il tempo a riflettere in casa alla loro vita, al modo di stare nel mondo. Sì, ma che cazzo me ne frega? Nel momento in cui non siamo più, ma non me ne frega niente di quello che dice Conte. Ma Conte mi deve parlare delle soluzioni che sta adottando il governo. Non mi deve dare i consigli sullo psicologo, sulla meditazione, su quello che uno deve fare a casa. A casa ognuno fa il cazzo che vuole, chiaro? D'accordo, ciao. D'accordo. Ciao. Si aggira sempre per l'Italia il Pipparolo, caro Parenzo, il Pipparolo, cioè colui che è a casa, non può fare a meno di farsi le seghe perché non può fare altro, è da solo, sì. E ovviamente si pente perché magari è anche cattolico, ultracattolico, e dice cazzo, ma devo trovare conforto in qualche prete, perché altrimenti così non vado avanti. Pronto? Sì, buonasera padre. Io mi chiamo Giuseppe. Mi perdoni se la disturbo. Io ho un problema, non so neanche a chi rivolgermi. Io, come tutti quanti, sono richiuso in casa per sto coronavirus, capisce? Ecco, io vivo da solo. Sto scoppiando. Ma io devo soddisfarmi, capisce padre? No, non capisco cosa devi fare. Io devo, come dire, devo sfogarmi sessualmente. Cerco di trovare la forza per controllarti. Non ce la faccio e mi rendo conto che un atto impuro, ma cosa devo fare? E fino adesso cosa hai fatto? Scusa, non ho capito. Come facevo padre, ma mi andavo in giro, andavo a puttane. Scusa, anche vedere altre donne per la strada non vuol mica disfogarsi, no? Ma la guardi padre che con Mariuccia la tetona, per esempio, mi vedo il paradiso. Oddio, non mi scusi. Ho capito, ma non ce la faccio, e la tentazione è il diavolo che mi prende. Io 3-4 volte al giorno lo devo fare. Ma ascolta un attimo, invece di fare questo, va su, fa un giro attorno a casa, evidentemente nei 200 metri che... Ma non si può fare anche questo adesso, padre. Le ultime norme sono molto restrittive. E dice che non si può uscire di casa, se zona rossa tutto quanto. Forse un attimo, mi personalmente 2-3 volte al giorno vado fuori, faccio il giro di accesa, magari faccio il giro 2-3 volte e poi rientro. Ma che darà la multa? Insomma, fino adesso non è successo. Non è successo, mamma mia, non sai che ho tanti schei che posso andare in giro così. Io ho veramente questo problema, la mia è una cosa compulsiva. Io se sto fermo così parte la mano. Va fuori 3-4 volte al giorno per fare la spesa? No, vado una volta. Va bene, con la borsa evidentemente va, fa finta di andare a fare la spesa, poi di giorni, quindi ti dà un motivo giusto per uscire di casa. E invece sfogarsi sessualmente se è giusto. Io sento che è una tentazione del diavolo. Chiamo una preghiera insieme alla Madonna perché ti aiuti a trovare la forza. Facciamo la preghiera insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nella nostra ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre Purissima, prega per noi. Va bene, che il Signore ti aiuta e volentieri faccio una preghiera. Speriamo bene, arrivederci. Andrea da Verona, vai. Beh. Andrea Ciao, da Verona. Ciao Crux, buonasera Parenzo. Dimmi Andrea, dimmi. Volevo denunciare buonasera, una cosa che è successa qualche giorno fa. Io lavoro in un supermercato a Brescia, in una nota catena. Sì. E a proposito della clientela che sta scantonando con noi dipendenti, io qualche giorno fa sono stato aggredito fisicamente perché c'era troppa fila, secondo lui. Un'ora di fila era esagerata. Questo ha iniziato a insultare, inveire contro tutti e tutti, finché ha inveito contro di me, mi ha tirato due calcioni alla gamba, un maestro di arti marziali oltretutto. Ma perché non l'hai denunciato? Non ho capito. No, che non sto poi denuncia. Il problema è che io sono 5 giorni a casa perché la gente sta impazzendo e nei supermercati non c'è tutela, perché la rabbia, la frustrazione della gente la riversano tutti nei supermercati. Tanto cosa si fa? Si va al supermercato a fare la spesa. Amico mio, qui noi registriamo ogni giorno la rabbia montante delle persone dentro casa. Rabbia montante. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. فإذا جند الله يدكهم دكا يدكهم دكا